Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Renzi alla prova del Senato, tra poco alle 14 il discorso per la fiducia che naturalmente vi faremo ascoltare in diretta. Nella notte lungo incontro con il ministro dell'economia Padoan sui tagli alla spesa e mobilità dei lavoratori pubblici. Un occhio ai numeri, l'ok è quasi scontato, da vedere se i voti saranno più o meno di quelli di Letta. In Ucraina, mandato d'arresto per l'ex presidente Yanukovych, ma gli occhi sono puntati ora sulla situazione finanziaria. Dal paese fanno sapere che servono 35 miliardi di dollari in due anni, si ipotizza un prestito del Fondo Monetario. Della Valle torna all'attacco su RCS. L'amministratore delegato è inadeguato, dice a Mix 24, ospite di Giovanni Minoli. Cairo ne prenda il posto. Contro di lui, contro l'amministratore delegato, valutiamo un'azione di responsabilità. Marò, il procuratore chiede a nome del governo la non applicazione della legge antipirateria, a nome del governo indiano naturalmente. La Corte Suprema aggiorna di nuovo la seduta a fra due settimane. Ultimo giorno di sfilate per la settimana della moda milanese, voci di un passaggio di mano di Crizzi andrebbe ad un gruppo cinese. Calcio, la Juventus tiene le distanze dalla Roma con una coda di polemiche sugli arbitri e su due striscioni dei tifosi bianconeri sulla tragedia di Superga, dove nel 49 precipitò l'aereo con tutta la squadra del grande Torino. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti che se volete potete commentare al 349-238-6666 oppure sulla nostra pagina Facebook, cercatela appunto su Facebook Effetto Giorno. Naturalmente la giornata è quella di attesa per il discorso sulla fiducia di Matteo Renzi e poi per il voto che ci sarà al Senato, discorso che sarà alle 14, come già vi dicevamo nei titoli, vi faremo ascoltare in diretta. Le ultime indiscrezioni su questo e anche gli ultimi passaggi, tra cui il lungo vertice notturno col neo ministro dell'economia, con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, eccoci. Sì, buongiorno. Temi economici, Simone, al centro del discorso programmatico del premier Renzi e del lungo incontro notturno con il ministro dell'economia Padoan, ministro che tra l'altro ha giurato questa mattina al Quirinale. Legge elettorale, lavoro, riforma della pubblica amministrazione e fisco, sappiamo il cronoprogramma annunciato da Renzi per i prossimi 4 mesi, a giugno, luglio, poi la giustizia. Certamente un focus particolare del nuovo esecutivo è su dove reperire le risorse per mettere in moto riforme che non sono a costo zero. E allora da dove partire? Di sicuro i tagli alla spesa pubblica resta al primo punto dell'agenda del nuovo Presidente del Consiglio, una macchina, quella dello Stato, secondo Renzi, che può funzionare meglio ottimizzando risorse economiche e risorse umane, da qui l'attenzione ad una maggiore mobilità dei lavoratori pubblici. Altro capitolo, e su questo si aspettano indicazioni precise nel discorso del nuovo Premier, quello delle tasse, da ultimo le polemiche su botte e patrimoniale, no a quest'ultima nel pensiero di Renzi, no a nuove tasse, sì però ad una maggiore equità, chi produce lavoro paga di meno, scriveva Renzi a gennaio, chi si muove in ambito finanziario paga di più, consentendo una riduzione del 10% dell'IRAP per le aziende. E da Roma è tutto. E grazie Vincenzo Miglietta, noi restiamo collegati in realtà con Roma e con il Senato, con la nostra Elisabetta Fiorito per fare un punto sui numeri, poi verremo alle opposizioni. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno dal Senato. Secondo lo sport ormai nazionale si contano i numeri qui a Palazzo Madama, il Presidente del Consiglio incaricato Matteo Renzi ha sulla carta 172 voti a favore, la maggioranza assoluta a Palazzo Madama è fissata, ricordiamo, a quota 161 voti, vale a dire metà del plenum, 320 senatori a vita compresi più uno, ma basta la maggioranza assoluta dei votanti. Rientrati i dissidenti civatiani nel PD voteranno sì anche se in disaccordo con il nuovo governo, per un totale di 107 voti del Partito Democratico, 31 arriveranno dal nuovo centrodestra, 8 di Scelta Civica, compreso Mario Monti, che ricordiamo è senatore a vita. 12 favorevoli dovrebbero arrivare dal gruppo per le autonomie, 12 dai popolari per l'Italia, 2 dal gruppo misto dei senatori a vita, Renzo Piano e Carlo Azeglio Ciampi, ma bisognerà vedere se l'ex presidente sarà presente per votare. Si parla anche dei 4 dissidenti del Movimento 5 Stelle e anche degli 11 del gruppo di Grandi Autonomie e Libertà, composto appunto da 11 senatori, ma non ci sono certezze riguardo a questi due gruppi. Alle 14 inizierà il discorso del Presidente del Consiglio incaricato Matteo Renzi, fino alle 20 la discussione, alle 22 la prima chiama, alle 23 il risultato del voto. Ricordiamo che il voto è palese per chiamata nominale, ogni senatore sfila davanti al banco della Presidenza dicendo sì o no alla fiducia e quindi non c'è pericolo di franchi tiratori. A te, Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito si citavano i Civatiani. Ebbene, avremo proprio Pippo Civati ospite più avanti nel corso della trasmissione. Sentiamo invece il lato opposizione. Niente stampelle a Renzi, le opposizioni escludono aiuti al Premier nel voto di fiducia. Forza Italia, pur confermando la disponibilità a fare insieme le riforme, oggi va anche all'attacco del nuovo governo e con Brunetta bacchetta il ministro Madia e definisce improvvide le parole di Del Rio sull'ipotesi di ritoccare la tassazione sui bot. Alle opposizioni il segretario democratico oggi potrebbe chiedere un atteggiamento responsabile, valutando volta per volta se sostenere i provvedimenti dell'esecutivo. Lega Nord, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle non sembrano però disposti a fare sconti. Il nostro no a Renzi è chiaro. Chi vota questo governo vota per la Merkel e per i banchieri dell'euro, dice il segretario del Carroccio Salvini. Nessun aiuto ad un governo che nasce sotto auspici peggiori di quello Letta da parte del nostro gruppo. Renzi non prenderà un voto in più, aggiunge il senatore Grillino Morra. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vediamo di analizzare la situazione. Il punto di Stefano Folli. Stefano, eccoci anche oggi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, sembra molto concentrato Renzi, naturalmente, come è normale che sia, visto che insomma tra 55 minuti alla prova del Senato e anche insomma quello che sta circolando in queste ore insomma sono appunto la questione della pubblica amministrazione, il vertice notturno con Padoan e però già le dichiarazioni di Del Rio sui bot che fanno discutere. Sì, Renzi è un passaggio, il primo passaggio già molto delicato del suo percorso, perché deve fare un discorso che sia, diciamo, volto a creare anche entusiasmo, fiducia nell'opinione pubblica, speranza, ma non può limitarsi soltanto a questo, ad alzare alcune bandiere. Deve entrare un po' più nel merito, secondo me, dei provvedimenti che intende prendere, di come vuol dare seguito alle promesse di riforme incisive e riforme rapide e profonde nel mondo della pubblica amministrazione, tutto quello che può spezzare la crosta delle ingessature e della paralisi che rende il nostro sistema così stagnante. Tutto questo è un compito di grande respiro, per il quale però bisogna trovare le risorse. Le riforme non sono mai a costo zero, occorre quindi tagliare la spesa e questi sono già due grandissimi impegni su cui il Presidente del Consiglio dovrà necessariamente dare alcuni chiarimenti, evitando, e questo è ovvio, alcuni passi falsi come quelli compiuti ieri da Del Rio, perché è chiaro che il messaggio che si vuole mandare deve essere un messaggio positivo. Se si comincia anche soltanto adombrando l'ipotesi di nuove tasse, questo rischia di compromettere la parte invece positiva del discorso che Renzi sta cominciando adesso a fare con il Paese. E grazie a Stefano Folli anche per oggi, buona giornata, noi passiamo all'Ucraina. Dove sia ora Yanukovych non si sa. Ieri l'hanno visto a Balaclava, sul Mar Nero, una di quelle cittadine che ai tempi dell'URSS erano proibite, se non ai pochi che avrebbero potuto rifugiarsi nel suo villaggio antiatomico sotterraneo, con tanto di base per sommergibili e deposito di testate nucleari. Ipotesi suggestiva, ambientata per di più in una regione ancora amica del presidente in fuga dalla capitale ucraina, dove invece lo si ricerca con la pesante accusa di uccisioni di massa di civili. Con Yanukovych e la sua corte in rotta, a Kiev è arrivata oggi il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, perché la transizione è tutta da guidare e la prima questione è finanziaria. Mosca ha già sospeso il versamento della prima tranche del credito che accordò a suo tempo a Yanukovych. Abbiamo bisogno di 35 miliardi di dollari in due anni, ha però affermato il ministro delle finanze ad interim, Yuri Kolobov, proponendo una conferenza internazionale dei finanziatori per intervenire subito. L'Unione Europea ha detto di voler aiutare l'Ucraina ad evitare il default e gli inglesi hanno suggerito di passare dal Fondo Monetario Internazionale, che a sua volta si è detto pronto a rispondere alla chiamata. In ottobre però furono proprio le condizioni poste dall'FMI a convincere Yanukovych a chiedere aiuto a Mosca e a dare inizio in pratica alla crisi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La vicenda dei due Marò, tra l'altro in corso un vertice al quale partecipa lo stesso Renzi con Roberta Pinotti, ministro della difesa, e Staffan de Mistura, che è l'inviato del governo in India. Sentiamo gli aggiornamenti di questa mattina. Si allontana per Salvatore Girone e Massimiliano Latorre l'ipotesi che venga applicata al loro caso la legge antiterrorismo. Lo ha chiesto il governo indiano alla Corte Suprema di New Delhi. Il ministro della Giustizia ha presentato alla Corte un parere scritto nel quale si dichiara favorevole a rinunciare alla norma che prevedeva anche la pena di morte per i due fucilieri italiani della Marina da 2 anni in attesa di processo in India, confermando però l'intenzione di far presentare il caso alla National Investigation Agency, l'unità antiterrorismo che ha svolto le indagini sul caso. Su quest'ultimo punto il governo italiano si oppone, dato che, sostengono gli avvocati della difesa, senza il SIU Act non può essere la National Investigation Agency a presentare la vicenda e il processo dovrebbe essere presieduto da una giuria allargata. La Corte Suprema di conseguenza ha aggiornato l'udienza al prossimo 7 marzo, fra altre 2 settimane, per consentire alle 2 parti di presentare le rispettive posizioni. Fra 1 settimana la difesa, fra 2 l'accusa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Così dunque sui Marò. Passiamo a parlare di Diego Della Valle, che questa mattina in un'intervista a Mix 24, ospite dunque di Giovanni Minoli, dice che sta valutando un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore delegato Pietro Scott Iovane e ha detto di ritenerlo dell'amministratore delegato di RCS, del quale è azionista Della Valle all'8,99%, e ha detto appunto di ritenerlo inadeguato. Dunque sentiamo. Per me esiste che questa azienda ha bisogno di cambiare in fretta e ho l'impressione che anche... Ma cambiare in fretta? Che significa? Avere un editore puro? Cambiare in fretta? Beh, intanto di editori puro nel Corriere ce n'è uno che si chiama Cairo. Cairo. Io sarei dell'avviso, se lui se la sente, di dargli la delega nel gestire l'azienda. Senta. E non capisco perché gli altri non lo facciano. Ah. E poi bisogna prendere atto che c'è un amministratore delegato assolutamente inadeguato. Così Della Valle. Il resto dell'intervista la potete sentire sul nostro sito www.radio24.it. Un avviso di garanzia che stamattina è stato emesso dalla Procura di Trieste nei confronti dell'ex amministratore delegato, dell'ex direttore generale di Generali. Si tratta di Giovanni Perissinotto e Raffaele Agrusti. L'accusa è ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza. E ci sono novità questa mattina su un'altra inchiesta che riguarda il mondo della finanza e riguarda in particolare il Monte dei Paschi, una serie di perquisizioni, un altro filone d'inchiesta. Sara Monaci del Sole 24 Ore, buongiorno. Sì, buongiorno. Di cosa si tratta? Sì, è una novità di questa mattina, riguarda il filone sui derivati dell'inchiesta sul Monte dei Paschi, in particolare un filone che inizialmente era secondario ma che adesso sta diventando sempre più grosso, ovvero un gruppo di manager, di ex broker che nel tempo, circa 10 anni, si sarebbero intascati commissioni gonfiate e occulte su operazioni di strutturati e di derivati, creandosi dei fondi illeciti messi in sicurezza in paesi offshore. Questa mattina gli uomini del nucleo valutario della Guardia di Finanza ha effettuato 20 di nuove perquisizioni in circa 10 di città italiane, in particolare a Siena, dove ci sono gli uffici di ex dirigenti del Monte dei Paschi, a Milano, a Monza, a Roma e a Ravenna e anche a Cortina. Queste le perquisizioni principali, per un ammontare di 47 milioni. Ricordo che in questo caso il Monte dei Paschi risulta banca truffata e quindi è una società che dovrà essere risarcita dell'operato di quella che già qualche mese fa veniva definita come la banda del 5%, appunto un gruppo che avrebbe fatto via via dei prelievi del 5% sulle varie commissioni. Grazie a Sara Monaci per questi aggiornamenti e saluto Michele Mario Elia, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, perché l'abbiamo chiamata? Non ne abbiamo parlato ancora nei titoli, ma in questo momento sono in corso le operazioni di rimozione del treno deragliato lo scorso 17 gennaio ad Andora, in provincia di Savona. Come stanno andando, Elia? Le cose stanno andando bene, la chiatta è arrivata stamattina da Genova, si è ormeggiata e poi si è stabilizzata a 10 metri dalla costa, ancorandosi agli scogli e con l'aiuto dei rimorchiatori viene tenuta sempre in posizione stabile. anche per evitare che con il moto ondoso in aumento questa possa non consentire le operazioni di recupero in maniera ottimale. Entro la giornata dovreste farcela, in sostanza? Entro la giornata dovremmo farcela, però al più domani mattina. Le gru sono in postazione, sono due gru, una da 800 tonnellate e una da 500 tonnellate, stanno per nel primo pomeriggio imbracare il locomotore. Con i cestelli sono degli operai e dei tecnici che stanno agganciando la macchina fra un po', e quindi provvederanno al sollevamento dello stesso, al posizionamento sui binari. Una volta messo sui binari, praticamente arriverà, cosa succederà? Arriverà un locomotore a prenderlo, in sostanza. Locomotori sono già lì perché cercarono soccorso dei colleghi di Trenitalia, che lavoreranno a tutte quelle attività collaterali per la messa in sicurezza ai fini del trasferimento sia della carrozza che della locomotiva. Grazie a Michele Mario Elia, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Le auguro una buona giornata. Noi ci fermiamo per la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo. Abbiamo ancora molti argomenti, tra cui innanzitutto la giornata di calcio di ieri con tutte le code polemiche. Poi torneremo a parlare di politica e torneremo a parlare di Ucraina. Vedremo, anche se è un po' grossolana detta così, di capire chi ha vinto e chi ha perso tra l'Europa e la Russia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Renzi alla prova del Senato, tra poco alle 14 il discorso per la fiducia nella notte, lungo incontro col ministro dell'economia. In Ucraina mandato d'arresto per l'ex presidente Yanukovych, dal paese intanto fanno sapere che servono 35 miliardi di dollari in due anni, si ipotizza un prestito del Fondo Monetario. Della Valle torna l'attacco su RCS e a Mix 24 dice l'amministratore delegato è inadeguato, Cairo ne prenda il posto. Marò, il procuratore, chiede a nome del governo la non applicazione della legge antipirateria. La Corte Suprema aggiorna di nuovo la seduta a fra due settimane. Veniamo a parlare di calcio e polemiche, soprattutto perché dopo la giornata di ieri, nella quale la Juventus ha mantenuto le distanze dalla Roma, ci sono polemiche arbitrali e che riguardano alcuni striscioni apparsi sulla curva juventina. Ne parliamo con Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Simone, direi domenica di polemiche e vergogna sui campi della Serie A, la seconda relativa a quegli striscioni esposti dai tifosi juventini inneggianti la tragedia di Superga durante il derby della Mole, striscioni che sono stati bollati via Twitter dallo stesso presidente bianconero Andrea Agnelli. Le polemiche, quelle arbitrali, relative allo stesso derby per quel rigore apparso netto commesso da Pirlo su El Kadouri, apparso netto a tutti, sì, ma non all'arbitro Rizzoli, che anzi ha ammonito il Granata. E poi altri errori sono arrivati a San Siro da parte dell'arbitro russo, che ha negato un penalty all'Inter, e a Genoa da parte del fischietto Doveri, che non ha sanzionato il fallo commesso da Pazzini sul portiere blu cerchiato in occasione del raddoppio milanista. In molti invocano la moviola in campo, deciso il no del presidente dell'Asso Arbitri Nicchi, che ribadisce sarebbe buona per il gol non gol, ma altrimenti sarebbe la fine del calcio. Insomma, tra fischietti e TV il braccio di ferro continua, e stasera si torna in campo con Parma Fiorentina e Napoli Genoa, che completano il programma proprio della 25esima di A. Grazie al nostro Dario Ricci, e saluto Pippo Civati, deputato del Partito Democratico, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, con lei naturalmente vogliamo parlare della fiducia a Renzi, insomma lei alla fine ha deciso che questa fiducia la darà, con grosso travaglio, mi sembra di aver capito. Beh, il travaglio di tutti gli elettori che pensano che stiamo facendo un errore clamoroso. La mia è una sfiducia di fatto, perché non sono convinto di questa operazione, penso che smentisca anche il renzismo buono, quello più coraggioso davvero, quello delle elezioni, quello della vittoria con il consenso dei cittadini. Quindi è un disagio fondatissimo politicamente, che però ci porta a una scelta molto dura tra lo stare nel PD e uscirne. Ma Civati, non ho capito una cosa, mi scusi, lei mi sembra che non abbia condiviso molte operazioni del Partito Democratico nell'ultimo periodo, ma perché non esce? Questo me lo stanno chiedendo quasi tutti, capisce l'imbarazzo, la difficoltà, perché penso che il progetto del Partito Democratico è l'unico comunque che possa rispondere ad una sinistra di governo. In questo momento c'è molto governo e molta poca sinistra, stiamo cercando di capire anche in questo ribaltamento senso, perché appunto Renzi fa il contrario di quello che Renzi prometteva, se è possibile rimanere nel PD con una posizione diversa e con la possibilità di orientarlo diversamente. Questa è la sfida. Quindi lei non esclude un'uscita dal partito eventualmente? Beh, ma scusi, ma il ricatto che è stato posto è un ricatto micidiale, cioè fare una cosa che molti, anche quelli che noi abbiamo sondaggiato ieri, ritengono sbagliata, sostenerla, capisce che per un po' si può anche provare, poi non so che cosa succederà. Non è ricatto insostenibile, insomma, mette contro opzioni diverse, radicalmente diverse tra loro. Mi sorprende che nessuno nell'area di Gianni Cuperlo, nei 150 parlamentari eletti con Bersani, abbia nessuna, come dire, cautela, nessun ripensamento, cioè solo i cattivi civatiani. A proposito, è convinto che tutti i aperte virgolette suoi, nel senso i cosiddetti civatiani, voteranno la fiducia? Io penso di sì, anche se le dico che ogni civatiano è civatiano e quindi non fa quello che dice il suo capo, la potrei dire con una battuta, nel senso che sono senatore, parlamentare e deputati che hanno un giudizio indipendente dal mio, che hanno una sensibilità simile alla mia, ma che ovviamente possono avere opinioni diverse. Le posso dire che la platea ieri di Bologna era largamente sbilanciata per rimanere nel PD e quindi votare la fiducia al PD, non tanto a Renzi, al progetto politico del PD e non a questo PD, mi spiego. Posizione difficile da spiegare soprattutto al popolo grillino, sì, che mi sta insultando via email e su Twitter, però insomma, sì, non lo so. Le dico che oggi girava questa battuta su Twitter, va data l'attribuzione a una pagina Facebook che si chiama Prugna, dove ogni tanto escono queste battute anche sulla politica, firmata da Mario Bovina, e dice: vieni all'assemblea dei civatiani? Sì, ma non vengo. Non è male. No, è buona, ma guardate che io sono ironico e sopporto l'accusa. L'unica cosa che non accetto è che io non sia coraggioso, questa, no, che non tiri fuori le palle, le solite palle, quelle d'acciaio di Letta che sono state poi un po' ammorbidite da Renzi nelle ultime settimane. Le palle si tengono soprattutto se si rimane lì a dare battaglia. Io potrei anche abbandonare il campo, non so chi ci guadagnerebbe, insomma. Quindi il coraggio si valuta sul medio periodo e vediamo un po' chi avrà avuto ragione. Ora sul governo Letta, a non votarlo avevo avuto ragione io, no? A non sostenerlo come schema politico, non tanto Letta, ma l'operazione mi sembra fallita. Adesso la rifacciamo con tutto il PD, il suo segretario che addirittura fa il premier, capisce che se dovessi dire di no, direi di no al PD, a Renzi, a tutto quanto. Quindi è una cosa più grossa e nello stesso tempo è più complicato dire di no. Grazie a Pippo Civati, deputato del Partito Democratico, buona giornata. Grazie, arrivederci. E saluto Paolo Magri, direttore dell'ISPI, bentornato a Effetto Giorno, salve. Buon pomeriggio. La chiamiamo per parlare un po' di Ucraina. Allora, come ho già detto prima agli ascoltatori, insomma prima della pausa, per la viabilità, capisco che possa sembrare un po' grossolana messa così come domanda, lei mi perdonerà che è un esperto di diplomazia. Chi ha vinto e chi ha perso? Ha vinto l'Unione Europea e ha perso la Russia? No, apprezzo l'approccio molto, molto pragmatico, uno pari sembrerebbe, ma il punto è proprio questo. Un mese fa sembrava che avesse vinto la Russia ed è stata una vittoria di brevissimo periodo. Ora non dobbiamo fare lo stesso errore, pensare che in questa seconda fase, dove sembra aver vinto l'Europa, non sia anche questa una vittoria di brevissimo periodo. Qual è la sostanza? La sostanza è che l'unica soluzione alla crisi ucraina, che è una crisi politica ed è una crisi economica molto grave, è uno sforzo congiunto che vede Europa, Russia e Stati Uniti assieme a lavorare assieme e trovare una soluzione. Ogni altra soluzione, vince la Russia prima, vince l'Europa dopo, nega la storia, l'economia e le politiche di questo paese che è da sempre diviso in due. Ecco, questo mi sembra un altro tema centrale, Magri. Lei vede rischi di appunto che il paese si divida, perché lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. C'è la parte a est, diciamo così, che è una parte eminentemente filorussa, e tant'è vero che è quella che ospiterebbe Yanukovych in queste ore. Si può dividere se i russi spingessero in questa direzione, perché è chiaro che le province di est e del sud, dalla Crimea alle altre, non compierebbero gesti isolazionistici senza avere un supporto. Ma qui torniamo al punto di prima, a nessuno fa comodo, a nessuno fa interesse avere un paese spezzato che sarebbe per ciascuna delle parti la metà di un grande paese come quella che è l'Ucraina. Quindi bisogna vedere quali saranno i rapporti fra Europa e Russia nei prossimi giorni. I segnali sono negativi e positivi. Negativo è chiaramente il ritiro dell'ambasciatore, positivo il dialogo in corso tra la Merkel e Putin, che tiene aperto una fiaccola di dialogo su una crisi che è forte e grave. Ecco, di Merkel ha parlato lei. L'altro giorno abbiamo ospitato un altro analista, un professore della LUIS, Germano Dottori, un docente di studi strategici, il quale ci diceva: la cosa interessante di questa crisi è che la Germania ha iniziato a travalicare i suoi confini in termini di come dire, capacità diplomatica, b, a travalicare quelli europei. Lei che dice? Sì, è positivo ed è vero, ma soprattutto di positivo è che il ritorno su questo scacchiere della Germania rimette un po' in seconda fila la Polonia. L'Europa ha fatto un grande errore a lasciare buona parte di questo dossier nelle gestioni delle mani polacche. La Polonia ha dei suoi ricordi storici per essere particolarmente interessata a staccare l'Ucraina dalla Russia, e quindi negli errori europei c'è stata la guida polacca eccessiva. La Germania sta ora correggendo il tiro, e questo incontro dove c'era sì la Polonia ma anche Germania e Francia dà un segnale di ribilanciamento in un'logica più centroeuropea e non nuova Europa nei rapporti fra con la Russia, che è molto importante. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per l'analisi puntuale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tra circa mezz'ora alle 14 il discorso per la fiducia di Matteo Renzi ve lo faremo ascoltare in diretta. In Ucraina mandato d'arresto per l'ex presidente Yanukovych, intanto si ipotizza un prestito del Fondo Monetario. Parla Medvedev adesso, dice: la situazione rappresenta una minaccia per i nostri interessi e per la vita dei nostri cittadini. Dravale torna all'attacco su RCS, Mix24 dice: l'amministratore delegato è inadeguato. Marò, il procuratore chiede a nome del governo la non applicazione della legge antipirateria. E ora veniamo, prima dei mercati, a questioni che in parte riguardano i mercati, perché ci sono alcune operazioni in ballo interessanti che riguardano la moda. Oggi, tra l'altro, si chiude la settimana della moda milanese. Ultimo giorno di sfilate milanesi nel segno delle acquisizioni. Se in passerella sarà protagonista Giorgio Armani, fieramente indipendente, ai margini i manager dei grandi gruppi tirano i fili del business. Secondo WWD, il quotidiano americano della moda e del lusso, Crizia sarebbe stata venduta ai cinesi di Shenzhen Maris Frolg Fashion Company, una delle più grandi catene di negozi del paese. L'accordo, secondo quanto scrive WWD, sarà finalizzato entro la primavera e potrebbe valere 500 milioni di dollari. LVMH invece punta sui giovani, acquisendo una quota di minoranza della Maison Marco De Vincenzo, che ha sfilato ieri con grande successo e che fa capo a uno dei più promettenti stilisti italiani di nuova generazione. LVMH è il più grande gruppo del lusso al mondo, controlla Louis Vuitton, è già proprietario di marchi italiani come Fendi, Emilio Pucci, e nel luglio scorso ha acquisito l'Oro Piana per 2 miliardi di euro. Giulia Crivelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Borse in diretta. I titoli del lusso vanno abbastanza bene oggi sui mercati. Ferragamo guadagna 0,5%, Luxottica lo 0,73% e Tod's in lieve calo dello 0,05%. Per il resto, borsa negativa in Italia, -0,24% sul FTSE MIB, FTSE O'Share -0,16%, Francoforte in guadagno dello 0,03%, di pochissimo, Parigi dello 0,29%, Londra giù dello 0,09%. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai la giornata è così? Ma guarda, le borse hanno un andamento, come dicevi, irregolare. Sono sopra i minimi di apertura, questo dopo la pubblicazione di un indice sulla fiducia delle imprese tedesche migliore delle attese, ma restano marginale rialzo alcune, marginale ribasso altre. A deprimere il tono del mercato sono le notizie poco rassicuranti dalla Cina, dove si segnalano restrizioni sul credito nel settore immobiliare, e il clima è condizionato anche da alcune notizie dal fronte societario in Europa, come i deludenti da dati della banca HSBC che fa meno 3,5% Londra e le deludenti previsioni 2014 da parte di Volkswagen che venerdì ha anche annunciato l'acquisto della quota non in suo possesso di Scania, finanziando parte dell'operazione con un aumento di capitale. Volkswagen cede quasi il 7% a Francoforte. Piazza Affari è sulla parità, questo in attesa del discorso programmatico del governo Renzi. Isabella, non abbiamo poco tempo oggi, quindi ti saluto qua proprio perché tra poco dovremo far sentire Renzi. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo e adesso torniamo a parlare di politica e lo facciamo con Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, insomma, non, nemmeno glielo devo chiedere se andate a votare o no, o votare o no, o no la fiducia a Matteo Renzi, perché tanto lo sappiamo che non la votate. Se temete invece qualche defezione, questo glielo voglio chiedere. Nel voto di fiducia? Sì. No, non penso. Non pensa che ci sarà qualcuno che andrà a votare la fiducia a Renzi, però sembra che ci sia qualcuno, se non in avvicinamento al PD, quantomeno in allontanamento da voi. Guardi, ognuno fa le sue scelte, tutti i candidati prima delle elezioni e della campagna elettorale hanno accettato un codice di comportamento che va rispettato, visto che noi ci vogliamo distinguere per il rispetto di quelli che sono gli accordi fatti con gli elettori e ovviamente del programma. Se c'è gente che non vuole più rispettare il codice di comportamento che ha accettato o gente a cui non sta bene nulla di quello che fa il Movimento 5 Stelle, può fare come crede, può allontanarsi dal Movimento 5 Stelle, può uscire, può fare tutto quello che ritiene più opportuno. Nel Movimento 5 Stelle invece si devono rispettare un codice di comportamento che è stato accettato pubblicamente. Lei come me, Nuti, è uno che frequenta la rete, insomma, no? Quindi ha visto che cosa scrivono le persone. È vero che ci sono molti che sostengono la sua stessa tesi, anche tra gli aderenti al movimento, altri che dicono, beh, insomma, è quello che dicono i senatori che vengono chiamati, non so come chiamarli, i semidissidenti, insomma, diciamo così, tra cui per esempio Orellana, che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa. Insomma, esprimono non un dissenso vero e proprio, ma delle critiche sulle modalità, insomma, su come certe cose avvengono, ad esempio sui voti online, no? Su come vengono fatti, sul fatto che siano fatti sostanzialmente solo in orari da ufficio, che ci siano avvisi troppo tardi, anche sulla modalità con la quale Grillo si è confrontato con Renzi. E dicono, alcuni di costoro dicono, beh, insomma, è una critica che ci sta, non è che bisogna essere granitici. Ma io le faccio una domanda a riguardo, ma non si tratta secondo me di una dissidenza, o meglio, nel momento in cui una persona non accetta nulla di quello che è il Movimento 5 Stelle, cioè qualunque cosa viene fatta non sta bene, si tratta ancora di dissidenza? Cioè quando è che c'è la dissidenza? Quando si fanno delle cose e magari qualcosa non piace, ma qualcosa, non tutto. Qui invece ci ritroviamo davanti a persone che qualche mese fa dicevano no, vogliamo consultare gli iscritti, vogliamo il sistema per far votare le leggi. Poi è arrivato no, ma il sistema non ci piace. Poi si fanno le consultazioni online no, ma il tempo è breve. Insomma, praticamente se non si fa come loro ritengono che sia più giusto, non va bene. Lei dice Nuti, mi scusi, lei nella pratica dice questi non sono dissidenti, questi sono già fuori dal movimento praticamente. No, io non dico che sono fuori dal movimento, io dico che bisogna capire che cos'è una persona che è dissidente, e a mio parere questo non è essere dissidenti, perché la dialettica e che cos'è però? No, mi scusi, perché su questo io vorrei, allora che aggettivo dà a questi senatori? Persone a cui non sta bene nulla di quello che è il movimento. E quindi di fatto tecnicamente fuori, scusi, cioè, non è che voglio tirare le conclusioni per lei, però insomma, per come la dice. Ma guardi, lei non dice niente di scandaloso a mio parere, cioè se io vado in un partito e facciamo finta nel PD e non mi sta bene nulla di quello che fa il PD, mi scusi, ma che ci sto a fare nel PD? E quindi lei dice, lei dice che ci stanno a fare questi? Io so solamente questo, dico, ma non perché le loro idee siano sbagliate o giuste, io non sono nessuno per dire che siano sbagliate o giuste, ognuno può avere le sue idee, però io entro in un gruppo quando condivido delle idee, non quando prima dico in campagna elettorale tutti a casa e poi dico no, tutti no, forse qualcuno dobbiamo tenere. Cioè, lei capisce che è una continua contraddizione. Secondo me in politica, e non solamente 5 Stelle, la coerenza è un valore da molto raro e da seguire. Il Movimento 5 Stelle lo deve avere, perché altrimenti se il Movimento 5 Stelle non è coerente rischia di diventare un po' come tutti gli altri. Oltre che onesto, ovviamente, un'altra caratteristica che manca spesso in politica. Le voglio chiedere questo, visto che lei è di Palermo e su Palermo, insomma, ci sono stati, come dire, parecchi scontri dopo il post che, aperte virgolette, scomunica, sfiducia i senatori Francesco Campanella e Fabrizio Bocchino. Si parla di una scissione là. È in grado di darci qualche dettaglio in più su che cosa sta succedendo là dentro? Ma guardi, io essendo che spesso sono a Roma non ho potuto seguire tutte le vicende del gruppo di Palermo, però le posso dire quanto segue, cioè che nel gruppo ci sono sempre state persone attive da parecchi anni e che ultimamente si sono avvicinate delle persone, diciamo gli attivisti dell'ultima ora li possiamo chiamare. C'è gente che se lei magari chiede ma voi siete iscritti al sito del movimento5stelle.it, magari neanche lo sono, non sono certificati. In ogni caso, a prescindere da questo, capita semplicemente che ci sono... cioè sono degli cosa lei sospetta siano degli infiltrati nuti? Ma questo sì, è un fenomeno che capita in tutta Italia, ora non so se a Palermo è proprio questo, però capita in tutta Italia, glielo posso garantire, nulla di nuovo e così via. Però c'è una fortuna che ogni persona, ogni gruppo, se vuole può crearsi quello che si chiama il Meetup, per intenderci, per chi non conosce, è una piattaforma online, ognuno se ne può creare una. Sì. Se ci sono delle persone che la pensano diversamente rispetto a un altro, si possono creare 2, 3, 4, 5 gruppi Meetup, non è questo il problema. Sì. Però c'è da dire che nel momento in cui un po' di persone iniziano a dire delle cose contrarie a quello che è stato il programma del Movimento 5 Stelle alle comunali, io ho candidato, non lo ricordo, è chiaro che le persone che si sono impegnate e hanno lavorato sul territorio per 5-6 anni dicono no, questo non è si infastidiscono, diciamo, in campagna elettorale, solo questo. Poi ripeto, ognuno può creare tantissimi gruppi. Addirittura c'è chi dice queste persone sono 40, quelle sono 10 e così via. A parte che io vorrei precisare, non so se anche lei l'ha letto, che stiamo parlando di tanti gruppi, dal gruppo di Trapani, Bagheria, Termini Imerese, Partinico, quindi vari gruppi, non è solamente quello di Palermo che ha preso semplicemente le distanze da queste persone. Quindi sono molti gruppi che hanno preso le distanze da queste persone. Sì, ma è scritto allora, in quello a cui lei faceva riferimento. Allora Nuti, io la ringrazio e la devo salutare, però prima di salutarla ce lo dica chiaro in una frase, ma che ci stanno a fare questi nel Movimento 5 Stelle? L'ha detto lei. Non lo vuole dire. Va bene, grazie Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle, buona giornata. L'inchiesta di Daniele Biacchessi. Chi è alla guida del Partito Democratico dopo che Matteo Renzi ha sciolto la riserva, è salito al Quirinale e davanti a Giorgio Napolitano ha accettato di formare un nuovo governo? La storia politica italiana ci conferma che un esecutivo, per poter durare a lungo, fino al 2018, dice Renzi, deve avere, oltre ad una maggioranza coesa, anche un partito di riferimento solido, gestito da uomini e donne di grande capacità, possibilmente in linea con il programma politico ed economico del Presidente del Consiglio. Un po' di storia. Nel 1996 l'Ulivo vinse le elezioni e il Partito Democratico della Sinistra si impose come prima forza politica. A quei tempi il presidente del Consiglio era Romano Prodi, espressione della parte cattolica della coalizione di centrosinistra. Il PDS mise a disposizione i suoi uomini migliori per il governo del paese, ma nel momento della rottura con Rifondazione Comunista e senza più i numeri in Parlamento, preferì alla fine sacrificare Prodi imponendo D'Alema come suo successore nel 1999. Oggi il governo Renzi nasce con molti neoministri presi direttamente dalla nuova segreteria del PD, come alcuni esempi Maria Elena Boschi, Mariana Madia, Federica Mogherini e altri che arriveranno nelle prossime ore come sottosegretari. È dunque indubbio che Renzi, impegnando tutti i suoi fedelissimi nel governo, lasci sguarnito il punto nodale della sua maggioranza, cioè il Partito Democratico e i suoi delicati equilibri interni. Massimo D'Alema e i cuperdiani, usciti sconfitti dalle recenti primarie, potrebbero dunque tornare in auge ancora a breve, così come potrebbe aumentare il consenso della nuova corrente guidata da Pippo Civati, che ieri alla convention di Bologna ha dato mandato di votare la fiducia al governo Renzi con il 50,1% di sì, ma soprattutto con il 39% di no. Renzi intende confermare la leadership anche nel suo partito, ma oggettivamente nei prossimi mesi sarà impegnato a risolvere centinaia di dossier importanti rimasti inevasi da Enrico Letta e sarà dunque difficile tenere la barra dritta anche nel Partito Democratico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Alle 14 Renzi alla prova del Senato, ve lo faremo ascoltare in diretta. Intanto ci sentiamo Mario Platero e America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Governo Renzi e l'America. Beh, da Washington solo un benvenuto di Obama per ora. Governo Renzi e i mercati. Wall Street osserva anche perché il governo si è insediato nel fine settimana, dunque pochi commenti, pochi articoli sui giornali, a parte un'analisi, devo dire, questa mattina del Wall Street Journal piuttosto interessante. Renzi, dice il quotidiano, comincia con le stesse condizioni del suo predecessore. Beh, devo dire, qui in America non si fanno sconti, il quotidiano sottolinea che ci sono 100 giorni per dimostrare di poter fare quello che non hanno fatto i predecessori. Fitch, agenzia per la valutazione del credito, dice i problemi che avrà Renzi saranno gli stessi che aveva Letta. Insomma, un benvenuto con prudenza per ora in attesa di risultati. Però cercherò di sentire oggi alcuni operatori, domani vi darò un quadro più completo. Oggi intanto parliamo d'altro. Philomena, how are you? I had a hip replacement last year, Martin. Titanium, so it won't rust. Otherwise I'd have to oil you like the Tin Man. Is that right? Oh no. He's just joking, Mom. Avete ascoltato un audio di Filomena, il film candidato agli Oscar, e perché? Beh, perché nell'evento di stasera di House of Speakeasy, il cui titolo è This is not a man, ispirato al quadro di Magritte, Ceci n'est pas une pipe, lo ricorderete quel quadro dove c'era una pipa e sotto c'è scritto questa non è una pipa. Ecco, questa sera, vi dicevo, intervengono vari personaggi letterari, tra cui il protagonista di Filomena, Steve Coogan, che è un attore inglese. Sarà collegato via Skype perché è a Los Angeles. E poi Susan Minor, grande scrittrice americana, Dana Vashon, autore di romanzi satirici che lavorava in banca, Tom Rees, autore, storico, giornalista, vinto il Pulitzer nel 2013, e infine Uma Thurman. Non so come andrà a finire stasera, però sono stato all'evento precedente di qualche settimana fa, il primo lanciato in questa nuova iniziativa letteraria filantropica a New York, ed ecco che cosa ho ascoltato. And we saw two possibilities. The first possibility is a future where there are no bookstores. Ecco, avete sentito la voce di Amanda Foreman. Amanda Foreman è una scrittrice inglese che vive ormai a New York da molti anni, che ha scritto un libro che è diventato un bestseller, un libro storico, Georgiana, Duchess of Devonshire. Georgiana era un'antenata della principessa Diana, poi la Foreman ha scritto anche un altro libro sulla guerra civile americana, tra l'altro l'abbiamo intervistata proprio qui ai microfoni di America 24. Allora, spiega come nasce un evento letterario nuovo a New York nel 2014, come nasce un'esperienza non profit, quali motivazioni ci può essere vedere per raccogliere, come ho visto quella sera, 350 persone che rappresentavano la crema della letteratura americana. C'erano fra i più importanti editori, agenti letterari, scrittori, c'erano molti giornalisti, c'erano gli editors, quelli che mettono a posto il libro nel momento in cui l'autore lo consegna. E dunque la Foreman dice: abbiamo guardato al futuro, abbiamo visto due possibilità. Nel primo caso abbiamo visto un futuro dove non esistono più le librerie, i media, i quotidiani, e non c'è più spazio per recensioni letterarie, e gli autori non possono più mantenersi attraverso la scrittura. I bambini, infine, non sono più interessati a leggere. Oppure abbiamo visto un altro futuro, in cui esiste una vivace comunità di lettori, scrittori, che produce opere di grande qualità con grandi idee. E questo è il futuro in cui vorrei che potessimo essere certi di vivere, con il vostro aiuto. Beh, credo che questo sia un futuro nel quale noi tutti vorremmo vivere, nel momento in cui internet e l'economia digitale porta a una volgarizzazione di molte delle grandi tematiche del nostro tempo. Ed ecco com'è andata la serata. If you look in your program, there are a couple cards with some forms on to be filled out, and they're both contests. Allora, intanto il presentatore è stato Andy Borowitz, comico, autore americano, scrive sul New Yorker, è stato bravissimo, spiritoso, simpatico. Poi ha parlato Simon Winchester, che è un ex giornalista del Guardian, che, devo dire, scherzando col fuoco, ha raccontato la storia di quando si è innamorato di una ragazza, e per via di questa ragazza che viveva in Canada si doveva pagare un biglietto, e a 17 anni cercava fra gli annunci pubblicitari, e ha raccontato, devo dire, in modo esilarante come alla fine ha accettato di andare a lavorare da un becchino. E quindi da questo becchino cosa ha imparato? Potete immaginare alcuni dettagli, devo dire, alquanto macabri, ma da morire da ridere. Poi ha parlato Susan Orlean e ha raccontato come lei scherzava sul fuoco appena arrivata a New York, andando da Papaya King. Papaya Kingdom, c'erano una gran quantità di bar che vendevano succo di papaya, un'esperienza la sua molto newyorkese. Poi Dar Williams ha cantato un paio di canzoni, e alla fine la stessa ciliegina che ci sarà questa sera, Borowitz ha presentato Uma Thurman. There is a wisdom that is woe, but there is a woe that is madness. Per rendervi partecipi diretti di questa serata, vi tradurrò il brano che ha letto Uma Thurman. Ne ha letti tre di brani, senza dire chi era l'autore. Toccava al pubblico, che aveva ricevuto delle schede, identificare l'opera e l'autore. La Thurman dice, e provate a capire qualcuno di voi, da dove è stato tratto questo brano. C'è una saggezza che è dolore e un dolore che è follia, e in certe anime c'è un'aquila di Catskill che può egualmente precipitarsi nelle gole più oscure e tornare a librarsi in alto, scomparendo contro il sole all'orizzonte, e anche ove essa voli per sempre nelle gole, e queste sono tra le montagne, e così anche nella sua più bassa discesa, l'aquila montana è sempre più in alto degli uccelli della pianura, anche quando questi volano in alto. Ecco, questo è il primo brano. Poi la Thurman ha letto una poesia e poi ha letto un brano tratto da un altro libro. Ebbene, in questo pubblico di grandi letterati newyorkesi, che dovrebbero essere le persone più colte non solo della città, ma d'America e chissà fra le più colte del mondo, nessuno tranne una persona ha indovinato. Il primo brano che vi ho letto era tratto da Moby Dick. Il secondo era una poesia di Robert Frost, Fire and Ice. Il terzo un libro di Mary Shelley, Frankenstein. Ebbene, chi è stato l'unico che ha indovinato? Lo scrittore Salman Rushdie. Era anche lui nel pubblico e ci ha confermato che alla fine sono gli scrittori, lui, scrittore, i veri depositari della memoria, della cultura, della letteratura, non gli agenti letterari, non gli editori, non i correttori di bozze. Beh, devo dire che alla fine della serata anche questa è stata una sicurezza importante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi restiamo in tema letterario con questa canzone ispirata al romanzo di Emily Brontë, Cime Tempestose, Kate Bush, Wuthering Heights. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Come avete capito, versione un po' allungata di Effetto Giorno. Tra poco andremo a sentire il discorso di Matteo Renzi al Senato per la fiducia. Prima Europa 24. Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Un cordone europeo di assistenza per la nuova Ucraina all'indomani della rivoluzione di Kiev. L'Europa si mobilita non solo sul piano diplomatico. Tra le capitali europee in prima linea ci sono Varsavia e Berlino, ma oggi è tornata a Kiev anche Catherine Ashton. Abbiamo bisogno di 35 miliardi di dollari in due anni, ha affermato il ministro delle finanze ad interim Yuri Kolobov, che con la Ashton discuterà in due giorni di vertice le possibili opzioni per approntare in tempi veloci aiuti finanziari. Olivier Bailey, portavoce della Commissione europea. Notre ligne n'a pas changé. La nostra linea non è cambiata, ha detto questa mattina. L'obiettivo immediato è la stabilità politica e economica del Paese, il dialogo politico inclusivo dei differenti partiti. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo. Capiamo e ascoltiamo l'aspirazione europeista degli ucraini. L'accordo di commercio e investimenti che proponemmo è tuttora sul tavolo. Evidentemente ne discuteremo con il prossimo governo. Porti economici sul piatto anche nel vertice in corso a Bruxelles tra Unione Europea e Brasile. L'Europa e il Brasile, ha detto il presidente della Commissione Barroso, hanno priorità condivise: la crescita, l'occupazione e la giustizia sociale. In questo momento le relazioni bilaterali sono più importanti che mai. In discussione anche la cooperazione in diversi settori, da ricerca ai trasporti e infrastrutture. Le sfide da affrontare insieme: cambiamenti climatici, sicurezza informatica, politiche energetiche. Una partecipazione del Brasile nel programma dell'Unione Europea. È importante, dice Barroso, sarà anche la partecipazione del Brasile al programma Horizon 2020, che è il maggiore e più ambizioso programma di finanziamento di ricerca e innovazione al mondo. Il budget 80 miliardi di euro. Oggi i rappresentanti della Troica, Unione Europea, BCE e Fondo Monetario ritornano anche ad Atene per la prima volta in due mesi per un'altra verifica del programma di salvataggio, ma è scontro sulla ricapitalizzazione delle banche greche. Lo scrive il Financial Times Online, spiegando che secondo le autorità elleniche il settore bancario nazionale necessiterebbe di meno di 6 miliardi di euro di capitali freschi, mentre per la Troica la somma sarebbe vicina ai 20 miliardi di euro. E a Bruxelles, riuniti questa mattina anche i ministri dell'Educazione, Gioventù e Cultura europei, ospite relatore anche Frank van der Broek, docente all'Università Cattolica di Leuven in Belgio. I think that countries who perform poorly in Credo che paesi che hanno cattivi risultati nel PISA, che è l'indagine per la valutazione della competenza degli studenti, e cattivi risultati nell'occupazione dei giovani rischino davvero una strozzatura. Chi è disoccupato tra i 25 e i 29 anni, ha spiegato, lo sentite, probabilmente non sta imparando molto e l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani con bassi livelli di PISA non migliorerà la situazione. Italia, Grecia e Spagna, ha osservato, hanno in questo ambito un'altra pericolosa similitudine che andrebbe presa in considerazione a livello comunitario. Ci fermiamo qui, l'Europa torna ad Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In allegato al resoconto e avverte della decorrenza del. Allora, eccoci qua. L'audio che sentite, l'audio che arriva in diretta dal Senato, dove tra poco si terrà il discorso programmatico di Matteo Renzi. Tra poco, naturalmente, partirà. Come sempre, queste sono le formalità che vengono sbrigate all'inizio di una seduta. In questo momento viene letto il verbale della seduta precedente. Quindi, naturalmente, l'orario delle 14 era indicativo. Tra poco, ovviamente, partirà il discorso. Sarà l'introduzione del Presidente del Senato Grasso e poi appunto arriverà Matteo Renzi che si presenterà per il discorso programmatico. Allora, dal punto di vista dei tempi come andranno le cose. Naturalmente ci sarà la discussione sulla fiducia. Secondo le ultime indicazioni che stanno arrivando, in realtà sono indicazioni che arrivano via Facebook dalla pagina del Presidente del Senato Pietro Grasso, che racconta come funzionerà la giornata. Ebbene, la prima chiama per la fiducia al governo Renzi in aula e a Palazzo Madama inizierà probabilmente alle 22 e terminerà qualche minuto prima delle 23, quindi sarà una cosa piuttosto lunga. Naturalmente Renzi dovrà ottenere la fiducia del Senato e poi domani quella della Camera. Lo snodo dei numeri, insomma, non è che ci siano particolari dubbi sul fatto che il governo Renzi possa ottenere la fiducia, ma naturalmente dubbi ci sono sui numeri, su quanto quanti senatori voteranno la fiducia a Renzi. L'ipotesi è che comunque sia un numero inferiore rispetto a quello che ha votato a favore della fiducia ad Enrico Letta. Questo dal lato dei numeri, perché in gioco ci sono molti elementi. Innanzitutto bisognerà capire, lo avete sentito poco fa in Effetto Giorno, nell'intervista che abbiamo realizzato con Pippo Civati, insomma, ci ha detto: guardate, io in linea di massima credo di sì, credo che tutti i senatori che fanno riferimento a me, al mio gruppo, a quella che possiamo definire una vera e propria corrente, voteranno sì, però ogni civatiano fa per sé e non obbedisce a quello che gli dice il suo capo, quindi può darsi anche che appunto qualche defezione anche all'interno del Partito Democratico ci sia, tant'è vero che questa mattina un'altra senatrice civattiana, ospite di 24 Mattino, di Alessandro Milan, ha detto, insomma, voterò però con molto mal di pancia. Mi stanno facendo dei cenni dalla regia per dirmi che probabilmente abbiamo collegato Vincenzo Miglietta Elisabetta Fiorito. Oh, Elisabetta Fiorito dal Senato. Elisabetta, eccoci. Ah, eccoci. Però mi sa che stiamo partendo. Fermati, che mi sa che stiamo partendo. Sentiamo Grasso. Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera. Onorevole Presidente, la informo che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data 21 febbraio 2014, ha accettato le dimissioni rassegnate il 14 febbraio 2014 dal gabinetto presieduto dall'onorevole Dottore Enrico Letta, nonché le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai sottosegretari di Stato. Sì. Avendo accettato l'incarico formare il governo, siamo sulle formalità. Elisabetta Fiorito, si stanno facendo un po' di conti qua a proposito di quanti voti potrà ottenere Renzi. Circa 172, Simone, ma dobbiamo dare subito un piccolo pettegolezzo. Si voterà alle 22 perché il Presidente del Senato Piero Grasso ha accolto le richieste del Movimento 5 Stelle di avere un dibattito ampio, per cui la chiama arriverà non prima delle 22, quindi già c'è questo piccolo gossip da qui, da Palazzo Madama. Una grande fortuna per tutti voi cronisti parlamentari, certo, diciamo. Perché per capire se saranno 172 o 171 o 173 voti, perché questo sarà all'incirca il pacchetto di Renzi. Ricordiamo che la maggioranza assoluta è fissata a quota 161 voti, vale a dire la metà del plenum, composto da 320 senatori, di cui ricordiamo 315 eletti e 5 a vita. Votano sì tutto il PD, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica, i Popolari per l'Italia, e invece non voteranno sì, sembra, i quattro dissidenti del Movimento 5 Stelle, ma il gruppo di Autonomia e Libertà sono 11, guarda con attenzione al discorso di Renzi che dovrebbe iniziare tra poco, e come abbiamo detto la seduta sarà molto molto lunga, la discussione addirittura fino alle 20, insomma. Simone, ne vedremo delle belle. Abbiamo già sentito il campanello, no? La campanella di Grasso, Inizio seduta, già inizio seduta. seduta, parte la campanella, tu dici iniziamo male. Allora, com'è andata? Facciamo così, riassumiamo anche com'è andata nell'attesa la mattinata e soprattutto la notte del Presidente del Consiglio, perché naturalmente, dovendo preparare il discorso, ha passato una nottata con Piercarlo Padoan, neo ministro all'economia, proprio per fare il punto sulla situazione, sulla parte economica del programma, evidentemente, e anche sulla parte economica del discorso. Da quel che si è capito, hanno parlato molto di taglio della spesa pubblica e hanno parlato anche della mobilità dei dipendenti della pubblica amministrazione. Com'è stata la mattinata invece? È stata naturalmente ancora una volta una mattinata di lavoro, e poi c'è stato un vertice che in realtà è finito proprio pochi istanti fa, insomma una decina di minuti fa, è stato un vertice a proposito della vicenda dei due Marò. Perché che cosa è successo questa mattina? È successo questa mattina che il procuratore del governo, ecco ci siamo, però Eccolo. A quanto pare... Pronti? Via! Sentiamo Matteo Renzi. Signor Presidente del Senato, gentili senatrici, onorevoli senatori, ci avviciniamo a voi in punta di piedi con il rispetto profondo, non formale, che si deve a quest'Aula, che si deve alla storia di un paese che trova in alcuni dei suoi luoghi non soltanto un simbolo, cioè qualcosa che tiene insieme, ma anche un elemento di unità profondo. Ci avviciniamo con lo stupore di chi si rende conto della magnificenza e della grandezza non solo di un luogo fisico, ma anche del valore che questo rappresenta nel cuore di una lunga storia come quella italiana. Ci avviciniamo dunque a voi con lo stupore di chi si rende conto di essere davanti a un pezzo di una storia che viene da una tradizione unica, ma contemporaneamente sappiamo perfettamente che viviamo un tempo di grande difficoltà, di struggenti responsabilità, e di fronte a questo, all'ampiezza di questa sfida, abbiamo la necessità di recuperare il coraggio, il gusto e per qualche aspetto anche il piacere di provare a fare dei sogni più grandi rispetto a quelli che abbiamo svolto sino ad oggi, e contemporaneamente accompagnarli da una concretezza puntuale, precisa. Riflettevo stamani mattina sul fatto che io non ho l'età per sedere nel Senato della Repubblica. Non vorrei iniziare con una citazione colta e straordinaria della pur bravissima Gigliola Cinquetti, ma è così, non ho l'età. E fa pensare che oggi davanti a voi, senatrici e senatori, siamo qui non per inseguire un record anagrafico, non per allungare di una riga il nostro curriculum vitae, non per toglierci qualche soddisfazione personale. Siamo qui, ve lo dobbiamo, per parlarvi un linguaggio di franchezza, vorrei dire al limite della brutalità, nel rispetto della storia a cui ho fatto riferimento. Siamo a chiedervi la fiducia. E oggi chiedere la fiducia è un gesto controcorrente, non tanto nel dibattito politico, doveroso, istituzionale, costituzionalmente previsto. Ma chiedere la fiducia significa oggi provare ad andare controcorrente. Si fatica a dare fiducia nel rapporto quotidiano con le persone, con i colleghi di lavoro. Le persone che stanno fuori da questa stanza sanno che chiedere la fiducia oggi è sempre più difficile. Non va di moda la richiesta della fiducia. Chiediamo fiducia a questo Senato, ci impegniamo a meritare la fiducia come governo, perché pensiamo che l'Italia abbia la necessità urgente, indifferibile, di recuperare la fiducia come condizione per uscire dalla situazione di crisi in cui ci troviamo. Un paese arrugginito, un paese impantanato, incatenato da una burocrazia asfissiante. Regole, norme e codicilli che paradossalmente non eliminano l'illegalità, senza dover risalire alle grida manzoniane. L'idea che le norme che si sono succedute nel corso degli anni non abbiano prodotto il risultato auspicato è sotto gli occhi di tutti. Eppure oggi chiedere la fiducia significa proporre una visione audace, unitaria e per qualche aspetto anche, spero, innovativa che parte dal linguaggio della franchezza, per la quale comunico fin dall'inizio che vorrei essere l'ultimo Presidente del Consiglio a chiedere a quest'Aula la fiducia. Sono consapevole della portata di questa espressione, di questa definizione, anche del rischio di farla di fronte a senatrici e senatori che certo non meritano per qualità personale il ruolo di ultimi senatori a dare la fiducia a un governo, ma è così, non lo sta chiedendo un governo, lo sta chiedendo un paese, lo sta chiedendo l'Italia. Noi oggi non immaginiamo di essere gli ultimi a chiedervi la fiducia perché abbiamo un pregiudizio su di voi, ma perché abbiamo un giudizio organico sull'Italia, per il quale o siamo nelle condizioni, apprezzo che questa dichiarazione abbia suscitato l'entusiasmo del senatore Calderoli, ma alla perentorietà di questa affermazione corrisponde la consapevolezza che il momento che stiamo vivendo è un momento nel quale o si ha il coraggio di operare delle scelte radicali e decisive, oppure non perderemo soltanto la relazione tra di noi, ma anche il rapporto con chi da casa continua a pensare che la politica sia una cosa seria, che la politica sia ciò di più grande che ha un paese, che la politica sia il valore per il quale vale la pena confrontarsi, discutere, litigare, ma anche alla fine per il quale valga la pena vivere un'esperienza di rispetto degli altri, quella straordinaria esperienza per la quale noi siamo, a differenza di qualche leader, orgogliosi di essere democratici. Siamo orgogliosi di apprezzare le regole del gioco della democrazia. Certo, più voi sarete capaci di stimolarci, più voi sarete capaci di incalzarci, più voi sarete capaci di raccontarci nel dettaglio come noi possiamo cambiare, meglio, più incisiva sarà l'azione di questo governo. Ma non possiamo non partire da un giudizio reale su ciò che sta fuori da queste aule. Se in questi anni avessimo prestato ai mercati rionali lo stesso ascolto che abbiamo prestato ai mercati finanziari, ci saremmo accorti che la prima richiesta è la richiesta di semplicità, è la richiesta di pace, è la richiesta di chiarezza, è la richiesta di una tregua della politica rispetto ai cittadini. L'impressione che invece abbiamo dato è quella di una angoscia nel rapporto tra politici e cittadini, per i quali l'idea che oggi è forte nel Paese è che l'Italia abbia già finito tutto il futuro che aveva, che l'Italia abbia esaurito le sue carte e che sia un Paese finito più che un Paese infinito. Bene, noi abbiamo accelerato e deciso di cambiare l'impostazione del governo nelle forze politiche che lo sostengono, perché pensiamo che fuori da qui ci sia un'Italia viva, brillante, un'Italia curiosa, un'Italia che nell'aspettarci fuori da questi palazzi si vuole bene, un'Italia che ci tiene a presentarsi bene, un'Italia che non ci segue per un motivo, perché è avanti a noi, siamo noi a doverla rincorrere e a doverla recuperare, è l'Italia che forse si sta stancando di aspettarci. E vi proponiamo come governo di fare di tutto per raggiungerla attraverso un pacchetto di riforme che consideri il semestre europeo come la principale opportunità, che affronti prima del semestre europeo le scelte legate alle politiche sul lavoro, sul fisco, sulla pubblica amministrazione, sulla giustizia, che metta al centro il valore della scuola, ma che parta naturalmente dalle riforme costituzionali, istituzionali e elettorali, che sulle quali si è registrato un accordo che va oltre la maggioranza che sostiene questo governo e per il quale noi non possiamo che dire che gli accordi li rispetteremo nei tempi e nelle modalità prestabilite. Pensiamo però che si debba partire da un presupposto. Il presupposto è che eravamo a un bivio. O si andava alle elezioni, più o meno. Noi non abbiamo paura di andare alle elezioni. Siamo abituati come partito, dico ai senatori del Movimento 5 Stelle che imparo ad apprezzare in quest'Aula che sono il segretario di un partito politico che non ha mai paura di candidarsi alle elezioni, anche come in Sardegna dove i sondaggi dicono il contrario, anche dove c'è difficoltà, noi non abbiamo paura di andare alle elezioni e in questo primo anno di vita parlamentare in cui abbiamo ricevuto da voi presunte lezioni di democrazia, vi segnalo, gentili senatrici e egregi senatori, che nelle quattro elezioni regionali che si sono svolte, quelle della Sardegna, quelle della Basilicata, quelle della provincia di Trento, quella della provincia di Bolzano, il Partito Democratico si è sempre presentato e ha sempre vinto. Non posso dire la stessa cosa per voi. Non abbiamo paura di andare alle elezioni. Noi abbiamo nel nostro DNA la volontà, il desiderio di confrontarci. Ma il passaggio elettorale che ci avrebbe atteso in queste ore era un passaggio elettorale nel quale, stante la legge elettorale uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, si sarebbe riprodotto uno schema che è quello che avrebbe portato a un sostanziale governo di larghe intese. Non v'è chi non vede che non sarebbe stato possibile per alcuno ottenere la maggioranza necessaria a governare nei due rami del Parlamento senza una modifica delle regole del gioco. E noi abbiamo proposto dal primo giorno che le regole del gioco fossero scritte da tutti, anche da chi prima ha alzato la voce, perché pensiamo che sia un valore condiviso che dopo 20 anni in cui prima la sinistra, poi la destra, prima il centro-sinistra, poi il centro-destra, quando si è trattato di scrivere le regole costituzionali, ha proceduto a maggioranza, il centro-sinistra nel 2001, il centro-destra nel 2006, con la legge elettorale connessa, pensiamo e penseremo che scrivere le regole del gioco insieme sia il valore fondamentale, costitutivo del rispetto delle istituzioni. E proveremo a farlo in una legislatura alla quale abbiamo allungato l'orizzonte politico, certo non quello costituzionale e istituzionale, che è fissato come naturale nel 2018. Ma arrivare al 2018 ha un senso soltanto se avvertiamo l'urgenza da cui sono partito nel mio intervento, che è l'urgenza di un cambiamento radicale per cui, mentre i tempi della politica sembrano dilatati, le persone che la mattina accompagnano i figli a scuola non possono permettersi rinvii. Mentre la politica, lasciatevelo dire da un sindaco, da Roma, sembra una politica nella quale la dilazione sia costante, sembra una politica nella quale si può anche rinviare al giorno dopo, si può allungare il tempo della decisione senza fine, si può rimandare l'urgenza dei provvedimenti, mentre fuori da qui questo sembra naturale. Quando poi vai nella vita di tutti i giorni, quando vai a parlare con le persone che faticano anche semplicemente a conciliare i propri orari, anche semplicemente a conciliare la propria quotidianità di vita, il senso della urgenza, del tempo che non può passare in vano, diventa un elemento centrale. Ecco perché noi proponiamo a questo Senato di uscire dal genere letterario che i talk show hanno sostanzialmente sdoganato, genere letterario per il quale non v'è trasmissione che non parta da un giudizio impietoso sulla situazione italiana e poi un servizio di una truppa all'estero che racconta come all'estero invece le cose vanno perfettamente bene e tutto sia straordinariamente bello e felice. Ormai è diventato un topos letterario. Ormai noi abbiamo come punto di riferimento il fatto che nelle trasmissioni televisive e nei talk show, fuori da qui, fuori dall'Italia, tutto va bene, da noi tutto va male. Non è così. Usciamo dal coro della lamentazione. Proviamo a immaginare un percorso concreto in cui la differenza tra sogno e obiettivo, ha detto qualcuno, è una data. Diamoci delle scadenze e proviamo ad allungare il lavoro di questi anni dando concretamente dei passaggi puntuali. Questo consente di arrivare al 1 luglio, qualcuno dice, avendo fatto i compiti a casa. Questo consente di arrivare, cioè, all'appuntamento con il semestre europeo, dando un valore non meramente formale a quell'appuntamento, ma dando un valore sostanziale. Non tedierò la vostra pazienza con un'analisi che pure sarebbe doverosa, ma non mancheranno altre occasioni, sulla situazione di profondo sconvolgimento istituzionale internazionale, come il mondo fuori da noi stia cambiando e come paradossalmente questo mondo riduca lo spazio dell'Europa, riduca il margine di potere che l'Europa ha. Non vi tedierò su questo, ma penso di avere il dovere di dire al Senato della Repubblica che se vogliamo immaginare che il semestre europeo sia una cosa seria, noi dobbiamo raccontare, spiegare, pensare che tipo di Europa immaginiamo nella cornice internazionale che sta mutando. Noi non possiamo immaginare che il semestre europeo sia semplicemente l'occasione per fare le nomine delle nuove istituzioni. Abbiamo bisogno di raccontare che cosa significhi l'Europa nel mondo che cambia. Questo è il punto centrale del semestre europeo. E non saremo credibili se... Se non riusciremo ad arrivare al semestre europeo avendo sistemato ciò che dobbiamo sistemare noi. Capisco che in quest'Aula ci sia la facile tendenza, in quest'Aula come alla Camera, come nell'opinione pubblica, a considerare l'Europa la madre dei nostri problemi. Vorrei dire che per me e per il governo che ho l'onore di presiedere non soltanto non è così, ma che nella tradizione europea europeista sta la parte migliore dell'Italia, che nella tradizione europea europeista dei valori di libertà e democrazia sta la certezza che l'Italia ha un futuro e non soltanto un passato. E quando penso a quell'uomo che in un'isoletta immaginava gli Stati Uniti d'Europa mentre infuriava il conflitto, quando penso a quell'uomo che in un momento di difficoltà per il nostro continente, di confronto fratricida, riusciva a intuire, immaginare, a in qualche modo profetizzare in modo laico una visione degli Stati Uniti d'Europa, mi sento orgoglioso di essere appartenente alla storia italiana. Il punto è che mettere a posto le cose di casa nostra non deriva da un obbligo europeo. Non è la signora Merkel o il governatore Draghi a chiedere di essere seri con il nostro debito pubblico, è il rispetto che dobbiamo ai nostri figli, alle generazioni che verranno, è il rispetto che dobbiamo alle persone che verranno dopo di noi, che ci impone di guardare ai conti pubblici in modo diverso da come è stato fatto da chi ha scialacquato nel corso degli ultimi decenni. Questo è il punto centrale. E se noi siamo in condizioni di arrivare al 1° luglio, avendo affrontato i temi costituzionali, istituzionali, elettorali, di lavoro, di fisco, di pubblico impiego, di giustizia e impostato un diverso atteggiamento sulla scuola, beh, se siamo in grado di fare questo, propongo a questo Senato, propongo alla Camera dei Deputati, propongo al Parlamento della Repubblica di essere in grado di vivere il semestre europeo come l'occasione in cui per 6 mesi guideremo le istituzioni dell'Europa, ma studiando una proposta perché nei prossimi 20 anni noi possiamo guidare l'Europa politicamente in un percorso che riguarda i nostri figli e che è uno dei punti centrali della credibilità delle istituzioni. Bene, se questo è vero, ho il dovere di entrare nel merito delle modalità con cui questo atteggiamento deve diventare realtà, ma ho anche il dovere di dirvi che la subalternità culturale per la quale troppo spesso si è considerata l'Europa come la nostra matrigna è una subalternità culturale della quale possiamo liberarci soltanto noi. Noi non possiamo immaginare che qualcun altro risolva i nostri problemi. E non possiamo neanche immaginare che in un momento come quello che stiamo vivendo, con una generazione che tra l'altro è rappresentata anche al governo, che è una generazione Erasmus, che è la generazione che ha conosciuto il sogno degli Stati Uniti d'Europa come concretezza, che ha conosciuto l'euro come unica moneta o quasi, di fronte a questa generazione, noi avvertiamo il bisogno di indicare una prospettiva di futuro, non vivere di rimpianti e di ricostruzioni fasulle del passato. Propongo a questo Senato di essere la legislatura della svolta. Avrei preferito che questo passaggio fosse stato preceduto da un chiaro mandato elettorale. Sappiamo come sono andate le elezioni. Oggi noi proponiamo di essere nelle condizioni di valutare una scelta politica. Non vi sorprenderà se in questo governo i segretari dei partiti maggiori sono rappresentati, perché questo è un governo politico. E noi pensiamo che la parola politica non sia una parolaccia. E noi pensiamo di poter andare nelle piazze a dire che la politica che noi abbiamo in testa è una politica reale, vera, precisa. E noi pensiamo che non ci sia politica alcuna che non parta dalla centralità della scuola. Mi piacerebbe che potesse capitare a chi ha la presunzione di avere la verità in tasca la possibilità di confrontarsi con le insegnanti delle scuole, la possibilità di confrontarsi con le famiglie, la possibilità di andare a parlare con nella vita di tutti i giorni, perché l'idea che da questa parte ci sia la casta e dall'altra parte ci siano i cittadini si è un po' rovesciata, lo dico a una parte di questo Parlamento. Lo dico a una parte di questo Parlamento perché chi di noi tutti i giorni ha incontrato cittadini, insegnanti, educatori, mamme, sa perfettamente che c'è una richiesta bellissima e straordinaria ed è duplice. Da un lato, restituire valore sociale agli insegnanti. E questo non ha bisogno di alcuna riforma, ha bisogno di un cambio di forma, di forma mentis. Non ha bisogno di denaro, riforme, commissioni di studio. C'è bisogno del rispetto che si deve a chi quotidianamente va nelle nostre classi e si assume su di sé il compito struggente e devastante di essere collaboratore della creazione di una libertà, collaboratore della famiglia, collaboratore delle agenzie educative. È straordinario il compito di un insegnante. Ma ci avete mai parlato con gli insegnanti, con quello che dicono oggi? Per favore. Invito. Ci sarà modo di esprimere il proprio dissenso durante la discussione, per lasciate parlare. Invito. Prego, spero che il Presidente del Senato mi consenta questo invito ai senatori del mio partito. Ricordiamoci sempre che svolgiamo una funzione sociale tesa a recuperare le difficoltà che stanno incontrando in questo momento i senatori e le senatrici dei 5 Stelle nei confronti della propria base e della propria opinione pubblica. Non è facile stare in un partito in cui c'è il capo che ti dice io non sono democratico, quindi vogliamoli bene anche se loro non ce ne vogliono a noi. Dicevo, io non ho fretta, per cui posso andare avanti anche. Dicevo, gli insegnanti. Dicevo gli insegnanti. Qual è la priorità che ha questo Paese nei confronti degli insegnanti? Sicuramente lo sa il Ministro dell'Istruzione e dell'Università, coinvolgere dal basso in ogni processo di riforma gli operatori della scuola, non c'è dubbio. Ma c'è una priorità a monte: recuperare quella fiducia, quella credibilità, recuperare quella dimensione per cui se qui si fanno le cose, allora nelle scuole si può tornare a credere che l'educazione sia davvero il motore dello sviluppo. Ci sono fior di studi di economisti che dimostrano come un territorio che investa in capitale umano, in educazione, in istruzione pubblica è un territorio che è più forte rispetto agli altri. Nell'entrare nelle scuole lo farò da Presidente del Consiglio. Una volta ottenuta, se sarà ottenuta, la fiducia al Senato e alla Camera, mercoledì, come tutte le settimane, mercoledì mattina mi recherò in una scuola. La prima sarà a Treviso, scelto di partire dal nord-est, la settimana prossima al sud, perché penso che sia fondamentale che il governo non stia soltanto a Roma e quindi mi recherò come facevo da sindaco nelle scuole, per dare un segnale simbolico, se volete persino banale, che da lì riparte un paese, dalla capacità di educare, tirare via, tirare fuori nel senso latino del termine, nasce la credibilità di un paese. Ma per farlo c'è bisogno della capacità di concretezza amministrativa. Con quale credibilità possiamo dire questo se continuiamo a considerare gli investimenti nell'edilizia scolastica bloccati da un patto di stabilità interna che almeno su questa parte va cambiato subito? Come puoi pensare che il comune e la provincia hanno la competenza sull'edilizia scolastica e non possono spendere i soldi che sono lì perché ci sono delle norme che si preoccupano della stabilità burocratica e non si rendono conto della stabilità delle aule in cui vanno i nostri figli? Come è possibile che non ci sia una chiarezza su questo punto? Scriverò domani una lettera ai miei colleghi sindaci per chiedere a tutti gli oltre 8.000 sindaci e ai presidenti delle province sopravvissuti un punto della situazione sull'edilizia scolastica, seguendo un bellissimo ragionamento che ha fatto il senatore Renzo Piano. Non so chi di voi ha avuto modo di seguire delle parole, a mio giudizio, straordinarie che Renzo Piano ha detto e scritto qualche giorno fa. Piano ha parlato, a proposito delle nostre periferie, di rammendare i nostri territori, rammendare le periferie. Io credo che sia un'espressione molto bella, che dia il senso di ciò di cui noi abbiamo bisogno. Nell'edilizia scolastica noi abbiamo bisogno di intervenire dal 15 giugno al 15 settembre con un programma straordinario, nell'ordine di qualche miliardo di euro, non di qualche decina di milioni, sui singoli territori, partendo dalle richieste dei sindaci e intervenendo in modo concreto e puntuale. Ma come? Di fronte alla crisi economica parti dalle scuole? Sì. Di fronte alla crisi economica non puoi non partire dalle scuole. Di fronte alla crisi economica partire dalle scuole significa partire però innanzitutto da una tregua educativa con le famiglie e da un intervento nell'edilizia e nell'infrastrutturazione scolastica su cui nelle prossime settimane vedrete concreti risultati. È chiaro che il tema della scuola è parziale rispetto al grande tema dell'educazione. Si inizia con gli asili nido, gli obiettivi di Lisbona vedono oggi un paese drammaticamente diviso in due, tra una parte dell'Italia che ha già raggiunto quegli obiettivi, alcune città che stanno sopra il 40%, e una parte dell'Italia che veleggia in percentuali drammatiche, alcune non arrivano neanche a doppia cifra, mi riferisco al numero dei bambini che frequentano gli asili nido. Non è un tema da addetti ai lavori. È il tema vero nella vita di tutti i giorni. E vi ricordo che stiamo trasmettendo in diretta il discorso di Matteo Renzi per la fiducia al Senato. L'occupazione femminile più alta d'Europa. Ed è inaccettabile in una cornice come quella con cui stiamo vivendo. È un tema che si collega al fatto che un bambino che non frequenta l'asilo nido ha un'occasione in meno rispetto a un suo coetaneo di un altro paese. Però non vorrei che questo facesse venir meno un giudizio sulle priorità che riguardano la condizione economica. Metto a verbale che la scuola è il punto di partenza e intervengo sulle quattro riforme che vi proponiamo, che vi proporremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e che sono, la cui urgenza è l'elemento che detta la scansione temporale dei prossimi mesi e dei prossimi anni e anche il cambio che noi abbiamo fatto all'interno del governo, cambio che non può in alcun modo oscurare i risultati che ha ottenuto il governo precedente. Fatemi fare un pensiero particolare al Presidente del Consiglio uscente, onorevole Enrico Letta. viviamo una situazione in cui dicevano che al Senato non vi divertivate, invece vi vedo sereni. Vi garantisco che vi divertirete sempre di più. Dal 2008 al 2013, mentre qualcuno si divertiva, il PIL di questo paese ha perso 9 punti percentuali. La disoccupazione giovanile è passata dal 21,3% al 41,6%. La disoccupazione è passata dal 6,7% al 12,6%, l'ultimo dato. Non sono i numeri di una crisi, sono i numeri di un tracollo. Non si tratta... Presidente, ora basta! Non ammetto commenti durante la discussione. Non si tratta... Ci sarà tempo per, durante la discussione generale per le dichiarazioni di voto. Prego, non si Presidente. Tratta di rispondere... Non si tratta di rispondere semplicemente con dei numeri a numeri. La crisi ha il volto di donne e di uomini, non di slide. Chi ha avuto modo di conoscere le dinamiche delle crisi aziendali, chi ha stretto la mano al cassintegrato, chi è entrato perché faceva il sindaco in una fabbrica o chi ha visto... da parlamentare, da senatore, chi ha ricevuto delegazioni di lavoratrici e lavoratori, sa perfettamente che la crisi non è un numerino. Però questo numero è impietoso, però questo numero è devastante, però questo numero impone un cambio radicale delle politiche economiche. Il cambio radicale delle politiche economiche passa innanzitutto da alcuni provvedimenti concreti che con il ministro Padoan abbiamo discusso e che approfondiremo nel corso delle prossime settimane. Il primo elemento su cui prendiamo un impegno è lo sblocco totale, non parziale, totale dei debiti della pubblica amministrazione attraverso un diverso utilizzo della cassa depositi e prestiti. Il secondo elemento che mettiamo immediatamente all'ordine del giorno è la costituzione e il sostegno di fondi di garanzia anche attraverso un rinnovato utilizzo di nuovo non soltanto della Cassa Depositi e Prestiti, dell'unica reale, importante, fondamentale questione che noi abbiamo sul tappeto, che è quello delle piccole e medie imprese che non riescono ad accedere al credito. Il terzo punto che noi poniamo immediatamente alla vostra attenzione, lo porremo nelle prossime settimane, è una riduzione a doppia cifra del cuneo fiscale attraverso misure serie, irreversibili, legate non soltanto alla revisione della spesa, che porterà nel corso dei primi mesi, del primo semestre del 2014, a vedere dei risultati immediati e concreti. Su questi tre impegni noi siamo nelle condizioni di non offrire parole, ma interventi precisi e puntuali. Basta? No, non basta, lo dico per primo io. Non perché la parte delle regole e della normativa sia una parte importante, nessun decreto crea attraverso le regole posti di lavoro. Al massimo può accadere che fa allontanare dei posti di lavoro, ma questa è un'altra storia. Noi partiremo entro il mese di marzo con la discussione parlamentare del cosiddetto piano per il lavoro, che modificando uno strumento universale a sostegno di chi perde il posto di lavoro e intervenendo attraverso delle regole normative anche profondamente innovative, perché se non riusciamo a creare nuove assunzioni il problema delle garanzie dei nuovi assunti neanche si pone. Immaginiamo però in modo strutturale di intervenire nella capacità di attrarre investimenti di questo paese, che negli ultimi anni, purtroppo, in virtù della crisi è profondamente diminuita, arrivando ai 12 miliardi dello scorso anno. C'è un dibattito surreale intorno a questo tema. Sembra che l'interesse nazionale impedisca l'attrazione degli investimenti. Sembra che quando un soggetto vuole investire in Italia debba essere cacciato al grido di guai allo straniero. Un paese vivo, ricco, aperto, curioso, non ha paura di attrarre investimenti. Li va a cercare, fa di tutto per agevolare l'investimento da parte di soggetti che vengono dall'esterno. E quando questo accade, da sindaco potrei parlarvi della madre di tutte le privatizzazioni, la privatizzazione del Nuovo Pignone, che negli anni 90 ha visto un incredibile aumento delle performance da parte dell'acquirente, gli americani di GE, e che oggi consente di aver moltiplicato per 7 i posti di lavoro. L'interesse nazionale non è il lancio d'agenzia del deputato o senatore in cerca di visibilità, l'interesse nazionale è il posto di lavoro che si crea, è una famiglia che riesce a uscire dalla situazione di disoccupazione. L'interesse nazionale che ha questo paese è che si esca dalla classifica in cui siamo all'ultimo, al penultimo, a dire il vero, posto nella classifica OCSE, qualcuno mi correggerà se sbaglio, nel penultimo posto per la capacità di attrazione. Al 126esimo posto nel Doing Index Business della World Bank, che ci vede essere percepiti all'esterno come un paese meraviglioso in cui andare in vacanza. Ma c'è un paese che è potenzialmente più attrattivo del nostro? C'è un paese che può coniugare la qualità del vivere bene con la capacità di tenere in piedi la genialità, l'intuizione, l'innovazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori? Ma vi sembra possibile che mentre nel mondo le start-up e le grandi aziende innovative, dagli Stati Uniti a Israele, vivono, crescono, in alcuni casi anche muoiono, perché questo è il destino delle start-up, in una dimensione straordinariamente innovativa, noi siamo invece fermi a un principio per il quale tra conferenze dei servizi, sovrintendenze, freni burocratici, prima di riuscire a portare a casa un risultato concreto come quello dell'apertura di un capannone, viviamo dei tempi che sono tempi biblici. Ma non sentite quanto stride nella concretezza di tutti i giorni l'urgenza da cui siamo partiti e le difficoltà che invece la macchina pubblica mette nei paletti a chi vuole venire a investire? Un paese semplice e coraggioso sul lavoro, un paese che non abbia paura a affrontare in modo diverso il rapporto con la pubblica amministrazione. Mi permetterete di dirlo, so che potrà sembrare persino provocatorio, ci sono settori dello Stato che vivono le peripezie della politica con apparente rispetto, ma con un sostanziale retropensiero. I governi passano, i dirigenti restano. Io credo, talvolta mi è venuto in mente di pensare che sarebbe meglio il contrario, ma in realtà non è così, sarebbe una forma eccessiva. Ma credo che sia civile un paese che afferma la contestualità tra l'espressione popolare del governo del paese e la struttura dirigente della macchina pubblica. In altri termini, credo che sia arrivato il momento di dire con forza che una politica forte è quella che affida dei tempi certi anche al ruolo dei dirigenti e che non può esistere, fermi salvi diritti acquisiti, la possibilità di un dirigente che rimane a tempo indeterminato e che è il depositario del bello, che fa il bello e il cattivo tempo. Noi non siamo per sottrarre responsabilità ai dirigenti, siamo per darle tutte. Noi vorremmo che la parola accountability trovasse una traduzione in italiano, perché ci sono le responsabilità erariali, ci sono le responsabilità penali, quelle civili, però non c'è una responsabilità da mancato raggiungimento degli obiettivi. C'è soltanto a livello teorico. Ma questa sfida è una sfida di buon senso che nell'arco di 4 anni può essere vinta e affrontata se partiamo subito e se abbiamo il coraggio anche, lasciatemelo dire, di far emergere in modo netto, chiaro, evidente, che ogni centesimo speso dalla pubblica amministrazione debba essere visibile online da parte di tutti. Questo significa non semplicemente il Freedom of Information Act, ma un meccanismo di rivoluzione nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, per cui il cittadino può verificare giorno dopo giorno ogni gesto che fa il proprio rappresentante. Ovviamente non è soltanto questo il processo di riforma della pubblica amministrazione che presenteremo prima delle elezioni. Così come prima delle elezioni vogliamo a tutti i costi intervenire sul fisco attraverso l'utilizzo della delega fiscale che il Parlamento ha affidato e che debba caratterizzarsi per alcune caratteristiche chiaramente visibili da parte dei cittadini. Riuscire a inviare a tutti i dipendenti pubblici e ai pensionati direttamente a casa, magari attraverso uno strumento di tecnologia semplice, visto che il Papa ha detto che internet è un dono di Dio, bene, possiamo smetterlo di considerare il nostro ostacolo o un problema, la dichiarazione dei redditi precompilata. È una proposta concreta e puntuale che nel corso delle consultazioni abbiamo ricevuto e recepito, è una proposta che può immediatamente mostrare come cambia il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Se il fisco smette di essere in qualche modo il nemico, un fisco ostile, un fisco che fa paura, un fisco che diventa il tuo spauracchio e assume i connotati di una sorta di consulenza che fa il cittadino, salvo poi quando accade che qualcuno davvero commette reati o comunque è passibile di sanzioni amministrative. Bene, quando accade questo la repressione deve essere durissima, ma un fisco che abbia connotati diversi e che faccia uscire dal pregiudizio i cittadini, per il quale sembra sempre che chi è famoso e potente comunque la sfanga e chi ha a che fare con una cartella esattoriale, ci sono un milione di errori formali, vive il rapporto con la pubblica amministrazione come un'angoscia. Questo non ci può altro che mandare, naturalmente, verso il quarto e ultimo punto che voglio citare, che è quello della giustizia. Abbiamo vissuto 20 anni di scontro ideologico su questo tema. Stiamo trasmettendo il discorso di Matteo Renzi, come avete capito, insomma c'è un po' di ritardo per tutti i convocati. Poi appena finito tornerà allo sport. Dopo 20 anni credo che le posizioni siano calcificate, siano intangibili. Che nessuno possa convincere l'altro che si è compiuto un errore o che si è fatto per bene. Io credo che sia arrivato il momento di mettere nel mese di giugno, e sarà compito del ministro competente, all'attenzione di questo Parlamento un pacchetto organico di revisione della giustizia che non lasci fuori niente. Parto dalla giustizia amministrativa. Siamo un paese in cui, lasciatevelo dire da chi costantemente ci batte la testa, lavorano più negli appalti pubblici gli avvocati che i muratori. Negli appalti pubblici non c'è alternativa al ricorso sul controricorso con la sospensiva. Siamo al punto in cui i tribunali amministrativi regionali possono discettare di tutto. Siamo al punto nel quale un provvedimento di un sindaco, ma anche in alcuni casi del Parlamento, è comunque costantemente rimesso in discussione, ha una corsa a ostacoli impressionante. Ma come possiamo dare certezza del diritto se noi per primi abbiamo un sistema, sono partito da quello amministrativo, che crea inquietudine non già soltanto agli investitori stranieri, ma agli stessi operatori del diritto, a partire dai giudici amministrativi che in più circostanze hanno sottolineato la necessità di riforme strutturali. La giustizia civile. Oggi noi viviamo un tempo nel quale, nella celerità dei processi, la lunghezza del processo civile, le difficoltà del processo civile sono tali per le quali non soltanto se ne vanno gli investimenti, che è un problema, ma se ne va la possibilità di credere realmente che il paese sia redimibile, che il paese sia recuperabile. C'è questa stanca rassegnazione per la quale uno parte dal presupposto che tanto quando entri in un'aula di tribunale non sai come ne esci. E naturalmente anche la giustizia penale, con ciò che comporta. Perché non c'è ombra di dubbio che a fronte di una straordinaria qualità di tantissime donne e uomini che lavorano nel campo della giustizia, a partire dai giudici, gli avvocati, gli operatori della giustizia, gli operatori di polizia giudiziaria, esiste una preoccupazione costante nell'opinione pubblica, a prescindere dalle discussioni che sono state oggetto di 20 anni di dibattito politico, sul fatto che la giustizia in Italia corre il rischio di arrivare troppo tardi. E anche, permettetemi di colpire in modo diverso, faccio un esempio il più banale, volutamente banale, agli occhi dell'opinione pubblica, ma volutamente drammatico nel cuore di un amministratore che fa politica. Non so, per chi di voi si è occupato di amministrazione pubblica nelle realtà territoriali, se sa qual è il momento più duro per un sindaco. Per me era quando l'SMS del comandante della Polizia Municipale ti informava che c'era stato un incidente stradale. E quando c'è un incidente stradale e muore un ragazzo di 17 anni, il sindaco non ha semplicemente un compito amministrativo. Il sindaco si trova faccia a faccia con il dolore di una famiglia che vede totalmente sconvolta la propria vita. Mi è accaduto, lo sanno le senatrici e i senatori fiorentini, ed è accaduto a tanti di voi. Bene, dalla storia di una di queste famiglie, da un percorso che abbiamo fatto insieme, è emerso con chiarezza che chi, ubriaco e drogato, si mette alla guida di un motorino causando il decesso di quel ragazzo di 17 anni, si chiamava Lorenzo, in tribunale ha una sanzione alla fine, per i motivi più vari, che è inferiore o sostanzialmente analoga a quella di un furto di serie B. Allora, vi rendete conto che cosa possa diventare incontrare nel giorno del 18° del compleanno di Lorenzo i suoi amici che festeggiano il compleanno senza di lui, ricordandolo? Vi rendete conto di che cosa possa significare andare a dire che io rappresento le istituzioni? E vi rendete conto che sguardo vi gettano addosso quelle ragazze e quei ragazzi, accusando la politica di non essere capace di dare delle regole chiare, regole che non valgono semplicemente un dibattito politico, ma che valgono la vita di un ragazzo come loro? Questa è la vita reale che vorremmo informasse di più la discussione sulla giustizia. Non semplicemente i nostri derby ideologici, ma la necessità di fare della giustizia un asset reale per lo sviluppo del Paese. Se arrivano queste iniziative, questi provvedimenti, io credo che noi saremo nelle condizioni di affrontare con maggiore decisione il passaggio del semestre europeo, ovviamente inserendole nel contesto della riforma costituzionale e elettorale. Sono partito dalla provocazione, che provocazione non è, il superamento del Senato. Oggi il procedimento legislativo è farraginoso, lo sapete meglio voi di me. Oggi il numero dei parlamentari è eccessivo rispetto ai paesi europei e al benchmark internazionale di riferimento, lo sapete meglio voi di me. Oggi la possibilità di superare l'attuale conformazione del Senato, mantenendo fermo il no al voto di fiducia e il no al voto di bilancio e la possibilità di svolgere la funzione senatoriale non come incarico figlio di un'elezione diretta e con un'indennità, ma come nel modello tedesco, attraverso l'assunzione di responsabilità dai territori impreziosito. Ci sono proposte in questo senso eventualmente da ulteriori figure e espressioni del mondo culturale, accademico e universitario. Questo tipo di proposta qua è il primo passo per recuperare la credibilità da parte dei cittadini nei nostri confronti. Quello immediatamente successivo è superare il titolo quinto per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Il titolo quinto oggi ha la necessità di rivedere le competenze esclusive dello Stato e delle regioni, di introdurre la possibilità per le regioni di legiferare in ogni materia che non sia specificamente assegnata, ma contemporaneamente di introdurre una clausola di intervento della legge statale anche in materie che siano esclusivamente assegnate alla competenza regionale, quando questo sia richiesto da esigenze di unità economica e giuridica dell'ordinamento. Noi prendiamo atto che in questi anni il ricorso alla Corte Costituzionale, non dico che ha ingolfato la Corte perché sarebbe scarsamente rispettoso delle istituzioni, ma ha comunque provocato un eccesso di tensione tra le regioni e lo Stato. E se noi oggi diciamo che non possiamo sostituire e tornare a un centralismo della burocrazia statale, come ci siamo detti anche in occasione di questo intervento, è anche altrettanto vero che abbiamo bisogno di chiedere alle donne e agli uomini che guidano le regioni, che ne fanno parte, di prendere atto che è cambiato il clima nei confronti delle regioni. È cambiato il clima sicuramente per ciò che è accaduto nel corso di questi anni in ordine ai rimborsi elettorali, ma è accaduto anche che troppo spesso la sovrapposizione di competenze dei comuni, delle province, delle regioni e dello Stato centrale con la linea europea a dare in qualche misura un ulteriore elemento di complicazione ha reso sostanzialmente ingovernabile il sistema istituzionale. Fin dal mese di marzo la riforma del Senato parta dal Senato, la riforma del titolo quinto parta dalla Camera. Proponiamo inoltre che l'accordo sulla legge elettorale, il cosiddetto Italicum, sul quale comprendiamo la esigenza di valorizzare il fatto che una legge elettorale che consenta il ballottaggio sia ovviamente impostata sulla presenza di una sola Camera, ma contemporaneamente sappiamo perfettamente che l'Italicum è pronto per essere discusso alla Camera. E noi da questo punto di vista consideriamo l'Italicum non soltanto una priorità, ma consideriamo l'Italicum una prima parziale risposta all'esigenza di evitare che la politica perda ulteriormente la faccia. Mi spiego, con quale credibilità possiamo dire che è urgente intervenire sulla legge elettorale e poi perdere l'occasione del contingentamento che abbiamo trovato? Certo, noi affermiamo che politicamente esiste un nesso netto tra l'accordo sulla legge elettorale, la riforma del Senato e la riforma del titolo quinto. Sono tre parti della stessa faccia. Però voglio dire due cose su questo. La prima, e mi rivolgo al gruppo delle opposizioni, alle opposizioni in particolar modo che hanno accettato di stare nel dibattito sulle riforme costituzionali e che non fanno parte però della maggioranza di governo. Noi abbiamo un tema aperto, ne abbiamo parlato durante le consultazioni con il senatore Romani. Abbiamo un tema aperto che è quello del superamento delle province. Il disegno di legge Delrio è oggi nelle condizioni di poter impedire che il 25 maggio si voti per le province. C'è un'opposizione dura, anche in quest'Aula, immagino. C'è stata alla Camera, dove si è saldata una opposizione e per qualche aspetto persino una forma di ostruzionismo tra Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Noi invitiamo a riflettere su una possibile soluzione semplice, evidente, a portata di tutti noi. Nel rispetto delle diverse posizioni, chiudiamo il disegno di legge Delrio e impediamo di votare il 25 maggio per le province, ma nella discussione sul titolo quinto riapriamo tra di noi la discussione su cosa devono essere le province. Mi pare un punto equilibrato, perché dimostra che noi sul tema delle province non possiamo perdere il passaggio che è aperto davanti a noi. Volete davvero rivotare il 25 maggio per 46 istituzioni provinciali? Chi si assume la responsabilità di dire che questo non è un costo e soprattutto non è una perdita di un'opportunità? Vogliamo tornare all'ennesimo TAR che interviene giudicando illegittima l'una o l'altra misura? Esiste lo spazio per poter chiudere questo passaggio in modo rapido. Il secondo punto, sulle riforme. Noi vogliamo sfidare il Parlamento. Non consideriamo il Parlamento un inutile orpello. Noi siamo pronti a recuperare, nell'ambito di una cornice condivisa, tutti i miglioramenti possibili. Noi non abbiamo idea di venire a dettare la linea e di aspettare che rapidamente si esegua nell'aula parlamentare, nelle aule parlamentari. Ma stiamo scherzando. Però vi chiediamo di farci carico, di farvi carico insieme a noi, del fatto che i tempi non sono più una variabile indipendente. Che se noi non iniziamo dalle riforme istituzionali e costituzionali e poi interveniamo nel pacchetto di riforme che vi ho detto nel corso dell'intervento, noi perdiamo la possibilità di essere considerati credibili non tanto dai nostri partner europei, ma anche e direi soprattutto dai nostri concittadini. Vado alla conclusione. Esistono numerosi provvedimenti di cui abbiamo discusso in fase di consultazione che non sono rientrati nell'ambito di questa relazione programmatica per scelta. Mi piacerebbe raccontarvi quanto intendiamo investire sulla cultura come elemento identitario. So che c'è una parte tra voi, egregi senatori, gentili senatrici, che ritiene che la parola identità sia in qualche misura il baluardo contro la parola integrazione. Non è così. Io credo che l'identità sia la base per l'integrazione. Il contrario di integrazione non è identità. Il contrario di integrazione è disintegrazione. Un paese che non si integra non ha futuro. Ecco perché, a fronte di un dibattito culturale che ha visto i diritti divenire oggetto di scontro, al punto che ciascuno di noi ha portato la propria bandierina in tutte le campagne elettorali sul tema dei diritti, a destra come a sinistra, ma poi non si è mai fatto niente. Noi immaginiamo con questo governo e con il vostro aiuto di trovare dei punti di sintesi reali che permettano a quella bambina che ha 12 anni e che frequenta la quinta elementare e che è nata nella stessa città in cui è nata la sua compagna di banco, di avere la possibilità, dopo un ciclo scolastico, di essere considerata italiana, esattamente come la sua compagna di banco. E che se ciascuno di noi ha una propria valutazione, se qualcuno di noi pensa che sarebbe giusto che quella bambina fosse considerata italiana al momento della nascita, ma altri tra di noi pensano che occorra almeno un ciclo scolastico, lo sforzo oggi non è affermare le proprie ragioni contro gli altri, ma trovare il punto di sintesi possibile. Così come sui diritti civili, oggi una mia amica mi ha scritto: se devi approvare una forma di unioni civili che non sia la forma che vogliamo noi, beh, allora non approvarla. No, non è così. Sui diritti si fa lo sforzo di ascoltarsi, di trovare un punto di... Questo è un cambio di metodo profondo. Sui diritti si fa lo sforzo di trovare un compromesso, anche quando questo compromesso non mi soddisfa del tutto. E ci ascolteremo reciprocamente. Ma la credibilità su questo tema sarà il punto di caduta di un'intesa possibile che già è stata costruita nel corso di questi giorni. Lo vedremo. Però sostenere che l'identità è il contrario dell'integrazione significa fare a pugni con la realtà, significa prendere a botte il niente. Vi vorrei mostrare, vorrei che mostrassimo, che ci mostrassimo reciprocamente le facce dei nostri ragazzi quando vanno in uno degli eventi che organizzano gli enti territoriali a visitare un museo di notte. Quando si rendono conto, cioè, che la cultura non soltanto è un qualcosa di cui, con cui si mangia, cioè di cui si nutre l'anima, ma quando dico che si mangia con la cultura dico che allora bisogna anche avere il coraggio di aprirci agli investimenti privati nella cultura, perché se si dice che è sbagliata la frase con la cultura non si mangia, bisogna anche avere il coraggio di dire che la cultura deve aprirsi al coinvolgimento degli investimenti privati e creare posti di lavoro. Però vorrei dirvi le facce, vorrei mostrare a me stesso e a voi le facce e i volti di chi in questi anni ha avuto modo, ad esempio, di vedere un museo la notte, ha avuto modo di farsi interrogare da un'opera d'arte, ha avuto modo di provare ad ascoltare la bellezza della musica, non soltanto nelle scuole dove va portata o riportata in modo diverso, ma anche nella quotidianità, in una qualsiasi realtà del mondo che non sia l'Italia. Essere italiani è un dono. In una qualsiasi realtà del mondo che non sia il nostro palazzo dei poteri, i nostri palazzi dei poteri, essere italiani è un elemento di bellezza che non so quanto salva il mondo, ma sicuramente salva l'export delle nostre aziende. In un qualsiasi luogo che non sia l'angustia autoreferenzialità del nostro dibattito, i valori della cultura fanno di noi una superpotenza mondiale. Se noi non siamo nelle condizioni di comprendere che il mondo piatto nel quale viviamo è un mondo che paradossalmente ci offre delle opportunità senza fine, che possono unire i distretti tecnologici con i beni culturali, che possono unire la capacità di investire sulle nuove generazioni con l'esperienza, la saggezza e la bellezza dei più grandi, beh, se noi non siamo in grado su questo tema di essere concretamente operativi, perdiamo un pezzo del nostro patrimonio culturale ed economico. È un pezzo della risposta alla crisi, modificare le regole del gioco anche in questi settori. E non ho affrontato, ma non lo posso fare adesso, come nel piano per il lavoro che presenteremo a marzo ci sarà una sorta di piano industriale per i singoli settori. Le energie alternative, intese non semplicemente come il sussidio o l'intervento su un singolo settore, ma come il bisogno di andare a inventarsi nuovi posti di lavoro sulla chimica verde, sull'innovazione tecnologica applicata alla ricerca, sugli investimenti veri, profondi, che si possono fare contro il dissesto idrogeologico in un paese in cui abbiamo dei soldi bloccati e fermi anche per responsabilità delle pubbliche amministrazioni, che gridano vendetta, non soltanto per ciò che stiamo vivendo in queste ore il modenese o l'area di Olbia, ma anche per come in questi anni abbiamo dovuto vivere con il fiatone certe emergenze che potevano essere affrontate in modo molto più semplice. Ma davvero abbiamo ancora soldi fermi sulle casse di laminazione ed espansione? Quando il mondo che sta cambiando rende così semplice intervenire in questa direzione? Ma davvero ancora non sappiamo in alcune realtà del paese chi ha il potere di intervento sugli argini per l'eccesso di funzioni tra le regioni, le province, i comuni, le autorità d'ambito? Ma davvero pensiamo che questi siano temi di serie B, di cui non parlare perché dobbiamo confrontarci soltanto parlando tra di noi delle nostre realtà quotidiane? Come facciamo a non prendere atto che anche su questo tema c'è bisogno di una svolta reale? Potrei, dicevo, continuare a lungo, non lo farò, mi limito a chiudere su un sentimento personale. Io credo che ieri, arrivato a Palazzo Chigi, ho scelto di fare alcune telefonate simboliche, ma non simboliche. Ho chiamato due nostri concittadini italiani che sono da troppo tempo bloccati a Nuova Delhi da una assoluta e allucinante vicenda per la quale garantisco l'impegno personale del governo. Ho chiamato una ragazza della mia età, si chiama Lucia, è di Pesaro. In questi giorni sta combattendo per il processo perché è stata sfregiata in volto dal suo ex fidanzato, e credo che sia una delle persone a cui ho voluto far sentire la vicinanza di questo paese. Ho chiamato, so che non vi interessa, ma a me sì, un mio amico che ha perso il posto di lavoro. E credo che capire che cosa significa incrociare lo sguardo di un papà, per non dire un babbo, che ha perso il posto di lavoro, e rendersi conto che il tuo compito non è di quello di star qui a urlare, ma è cercare di dare delle risposte concrete per cambiare le regole del gioco, segna la differenza tra la sua propaganda, senatore, e la nostra politica. Ma ho scelto anche e soprattutto di pensare a che cosa significhi per un ragazzo che oggi ha più o meno la mia età il fatto che il governo scelga di dire che questo è il momento della svolta radicale. Mi sono cioè messo in testa di pensare a che cosa possa significare per ciascuno di noi il fatto che non soltanto noi oggi viviamo un momento di cambio del governo, ma cosa questo cambio del governo significhi nella vita delle persone. Una signora, scherzando fino a un certo punto, forse voleva farmi un complimento, ieri fuori dalla messa mi ha detto: certo, se tu fai il Presidente del Consiglio te lo può fare veramente chiunque. Lei probabilmente voleva essere carina, non le è venuto granché bene, o forse è la verità. Però ho pensato che questo è davvero vero, fino in fondo. Io arrivo a questa responsabilità proveniendo da un'esperienza politica innovativa, forte, autorevole, quale quella del Partito Democratico, ma nella quale si è dato la possibilità a una generazione di sfidarsi, si è dato la possibilità di provarci. Il mio partito, cui va la mia gratitudine, come naturalmente agli altri partiti che compongono la coalizione, come doveroso che sia, ma una gratitudine particolare va al mio partito, perché il mio partito ha consentito in un certo momento di dire: se avete idee, giocatevela. Se avete sogni, provate a mettervi in gioco. Oggi noi siamo pieni di persone, di momenti, di vita, in cui è esattamente l'opposto. In cui ci dicono: no, non si può fare, non si riesce a raggiungere i risultati. In cui ci dicono praticamente tutti, sempre e comunque, che c'è un blocco, che l'Italia non esce dalla crisi, che il mutuo in banca non te lo danno per aprire casa, che non hai neanche, mentre fai l'apprendista, la possibilità di avere quei soldi che ti servono per mangiarti una pizza e una birra. A questa generazione che cosa diciamo noi oggi qui? Noi oggi qui diciamo che l'Italia vuole diventare il luogo delle opportunità. Non credo che ci siano pari opportunità nel fatto che c'è la metà di donne. L'opportunità, permettetemi la battuta, è dispari, non è pari, ce n'è solo una. Noi abbiamo una sola occasione. È questa. E noi vi diciamo, guardandovi negli occhi, che se dovessimo perdere non cercheremmo alibi. Se perderemo questa sfida, la colpa sarà soltanto mia. Perché deve finire il tempo in cui chi va nei palazzi del potere poi tutte le volte trova una scusa. Non ci sono più alibi. Non ci sono più alibi per nessuno, per primo per me. Però in questo scenario, lasciatemi dire e lasciatemi concludere su questo, sul fatto che questa Italia delle possibilità è un'Italia che oggi vede un governo chiedervi la fiducia sulla base di un cambiamento radicale, immediato e puntuale, e che però contemporaneamente offre tutto il meglio di quello che ha. L'idea che il futuro dell'Italia non sia essere il fanalino di coda dell'Europa, che il futuro dell'Italia non sia stare a lamentarsi e a piangere dalla mattina alla sera, che il futuro dell'Italia non sia semplicemente raccontarci come le cose vanno male o perché non ci fanno lavorare. Il futuro dell'Italia sta nelle qualità, nel genio, nell'intelligenza e nella curiosità di ciascuno di noi. Noi siamo assolutamente certi che, mettendo tutto noi stessi in questa sfida, La possibilità di cambiare è reale, è concreta e immediata. Purché ciascuno di noi viva il futuro non come un'incognita, purché ciascuno di noi sappia che è il tempo del coraggio e che questo tempo del coraggio non esclude nessuno e non lascia alibi a nessuno. E questo è stato, a dir la verità, il lungo discorso di Matteo Renzi al Senato per la fiducia per la quale sono previsti tempi lunghi. La prima chiama sarà alle 22, perché il Presidente del Senato Grasso ha deciso di lasciare ampio spazio naturalmente al dibattito, anche su richiesta del Movimento 5 Stelle. Molto brevemente, è stato un discorso di un'ora e un quarto, insomma, quindi diciamo riassumere è molto difficile. Possiamo dire che fondamentalmente le cose fondamentali, almeno dal lato economico, sono la promessa di una riduzione del cuneo fiscale a due cifre, il pagamento totale e rapido dei debiti della pubblica amministrazione verso le aziende tramite la Cassa Depositi e Prestiti, una presa di posizione forte sull'inamovibilità dei dirigenti pubblici, che invece, dice, vanno rimossi. Si è parlato di riforma della giustizia e naturalmente molti altri argomenti, però naturalmente ve li riferiremo, ve li riassumeremo in tutti i nostri giornali radio. Adesso la linea a tutti i convocati, che, dato che mi sono esteso io con effetto giorno, Carlo Genta si estende anche tutti i convocati. Ciao a tutti. Più che altro si è esteso Renzi, già proponiamo mozione di sfiducia contro questo governo, perché quanto parla, mazza, sì, quanto parla questo, logorroico come pochi. No, mozione di sfiducia, perché ci abbassa gli ascolti, secondo me. Ma comunque, dai, ne parliamo tra un attimo. Adesso tutti convocati, noi chiudiamo qua. Un ringraziamento a Laura Faggini in assistenza in redazione, per effetto giorno naturalmente, in regia ci sono stati Fabio Cantadori e Roberto Scaltritti. Il giornale radio alle 16:00.